Haribol. Om Agyanati Marandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militangena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha De Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Lama. Paschatyami. Occhiali. Sì, anche gli occhiali. Senza occhiali non riesco a leggere. Arrivora a tutti. Allora, siamo nel capitolo, sempre il libro di Krishna, capitolo 49. Krishna erige il forte di Dwarka. Che settimana scorsa abbiamo letto di Dhritarashtra, che sono andati lì a visitare, a vedere come stavano i Pandava. Visto le cattive intenzioni di Dhritarashtra e poi sono tornate a speak loud. E qui vediamo vedremo le costruzione dal potere trascendentale dal Signore Supremo dal città trascendentale di Dwarka. Nella residenza eterna di Krishna. Se si sente poco, ditelo, Scrivetelo, anzi. Scrivetelo. Allora, Kamsa moriva lasciando due vedove. Nella società vedica la donna non è mai indipendente. Questo è molto controverso. Vuol dire che è protetta, non vuol dire che non è... considerata. Non è considerato, è considerata di più, che è protetto, è curato, valorizzato, non usato come un oggetto che fai pensare che è indipendente, ma in realtà è visto solo come un oggetto di utilizzare, di sfruttare. Invece queste vuol dire, in queste case vuol dire protezione, di cura che potrebbe realizzare il suo vero contributo e beni per tutti, per la società. E nessuna delle tre fasi della sua vita, nell'infanzia, infatti, ella vive sotto la protezione del padre, nella giovinezza e nell'età adulta, sotto la protezione dello sposo, ovviamente sposi. mariti qualificati in grado di curare e proteggere la moglie, e nell'eventuale vidovanza troverà la protezione dei figli ormai cresciuti, oppure della casa paterna dove tornerà dopo la morte del marito. Pare che Kamsa non avesse figli adulti, perciò le sue spose, una volta vedove, tornarono a vivere sotto la protezione del padre, che era il re Jarasandha, un altro grande demone che vedremo. Signore della provincia del Bihar, conosciuto allora come Magadharaj. Tornate a casa, le due regine, Asti e Prapti, descrissero al padre le penose condizioni in cui le lasciava la morte di Kamsa. Dopo aver udito il loro pietoso racconto, Jarasandha, il re di Magadha, indignato, decise subito di cancellare gli Yadu dalla faccia della terra. Krishna aveva ucciso Kamsa, l'intera dinastia degli Yadu doveva dunque perire. Questa mentalità demoniaca di Jarasandha. Ucciso solo uno, che adesso deve cancellare tutta la dinastia. Poi vedremo cosa succede. Deciso ad attaccare Mathura, il re predispose ampie misure. Mobilitò migliaia e migliaia di carri, elefanti, cavalli e soldati di fanteria. E con 13 legioni, che non è... scese in campo e circondò Mathura, la capitale Akshahini si chiama in sanscrito, di legioni, la capitale dei re Yadu, per vendicare la morte di Kamsa. Sri Krishna, nella parte di un uomo comune, vide la formidabile potenza di Jarasandha, un oceano di armi e di guerrieri, un oceano sul punto di inondare tutta una spiaggia. Vide il terrore degli abitanti di Mathura e riflette sulla sua missione di avatar. Paritranaya saranam vinasya chaduskita. Un attimo solo, che non sentiamo più, perché Krishna Loka riceve parecchi di questi. Chiamate, ok. Lo scopo della sua missione era quello di ridurre il fardello dei popoli, ed ecco giunta l'occasione di affrontare in una sola volta tanti uomini, carri, elefanti e cavalli. La potenza militare di Jarasandha si schierava di fronte a lui in tutta la sua imponenza ed egli l'avrebbe annientata senza lasciare ai nemici il tempo di battere in ritirata e riorganizzarsi. Perché Krishna dice nella Bhagavad Gita, paritranaya saranam vinasya chaduskitam, che scende per proteggere i devoti e annientare i miscredenti, persone che stanno creando disturbi sulla pianeta, forze bellicose che disturbi, che uccidono i cittadini pacifici, e Krishna viene anche per ristabilire la pace e la serenità e la spiritualità nella società. Poi così in questi casi c'erano tanti forzi guerrieri bellicosi che girava il mondo, e uno dei compiti di Krishna quando scende è di diminuire questi disturbi sulla terra. E poi ricordiamo, quando sono uccisi da Krishna sono liberati, così per loro bene anche. Mentre Sri Krishna era assorto in questi pensieri, due carri da guerra, perfettamente equipaggiati di auriga, armi, stendardi e altri oggetti bellici, apparvero in cielo e scesero davanti a lui. Krishna si rivolse allora a suo fratello Balaram, chiamato anche Sankarsan. «Mio caro fratello maggiore, tu sei il migliore degli Arya, il signore dell'universo, e in particolare il protettore degli Yadu, che sono ora terrorizzati di fronte all'esercito di Jarasandha. Prendi posto sul tuo carro che è là, ben armato, e proteggili. Vai ad affrontare tutti quei guerrieri nemici e distruggi la loro potenza. Ricordiamo che Balaram è il fratello di Krishna e anche le prime espansioni di Krishna, così anche lui è Dio stesso. Noi siamo scesi sulla terra al fine di eliminare questi inutili spiegamenti di forze militari e proteggere i virtuosi Bhakta. Ecco l'occasione di adempiere la nostra missione. Andiamo dunque. Così Krishna e Balaram, discendenti di Dasharatha, il re di Gadadha, decisero di annientare le 13 legioni di Jarasandha. Krishna salì sul carro condotto da Daruka e al suono delle conchiglie uscì dalla città seguito da un piccolo esercito che Krishna poteva fare da solo. Stranamente, benché il nemico fosse di molto superiore per numero e armamenti, quando il suono della conchiglia di Krishna giunse alle orecchie dei guerrieri di Jarasandha, il loro cuore tremò. Come nella Bhagavad Gita, la battaglia di Kurukshetra molto più avanti, quando Krishna Arjuna suonava la loro conchiglia trascendentale, tremava di paura lì. E Kurus dall'altra parte. Scorreggendo Krishna e Balaram, Jarasandha fu preso da un sentimento di compassione perché quei due fratelli in fondo erano suoi nipoti. Poi, rivolgendosi a Krishna, lo chiamò Purushadam, il più vile tra gli uomini, mentre le scritture vediche glorificano Krishna come Purushottam, come il mese scorso che si chiamava il mese di Purushottam, che lì è la persona perfetta, la persona suprema, il più elevato tra gli uomini. Jarasandha non intendeva certo chiamare Krishna Purushottam, ma grandi eruditi hanno messo in luce il vero significato del termine Purushadam, colui con la sua presenza fa scomparire ogni altra personalità che è superiore. In realtà nessuno può uguagliare o superare Dio, la persona suprema. Jarasandha continuò: è un grande disonore per me combattere contro ragazzi come Krishna e Balaram. Krishna aveva ucciso Kamsa, perciò Jarasandha lo chiamò assassino dei propri parenti, senza ricordare il fatto che Kamsa aveva trucidato tanti suoi nipoti. Jarasandha accusò Krishna di aver ucciso Kamsa, suo zio materno. Comportamento questo proprio delle Asura, che cercano sempre di sottolineare gli errori altrui senza considerare i propri. Ricordiamo che questa è qualità asurica o demoniaca, di vedere sempre gli errori e la colpa degli altri e senza vedere i nostri errori. Qui viene proprio definito come una qualità demoniaca di fare così. Infatti, hai detto che quando punti il dito verso qualcuno, tre. Uno verso di voi e tre verso di me. Jarasandha inoltre rinfacciò a Krishna di non essere uno kshatriya. Infatti Nanda Maharaj, suo padre adottivo, era un vaisha, e i vaisha sono generalmente chiamati gupta, termine che può anche significare nascosto. Perciò Krishna era stato allo stesso tempo nascosto e allevato da Nanda Maharaj. Jarasandha gli rivolgeva dunque tre accuse: l'uccisione dello zio materno, il fatto che Krishna era stato nascosto durante l'infanzia e il fatto che non era neppure uno kshatriya. Per questi motivi Jarasandha si vergognava di combattere contro di lui. E tu, rivolgendosi a Balaram, se vuoi può combattere accanto a lui e aspettare, se hai pazienza, di essere trafitto dalle mie frecce. Potrai così raggiungere i pianeti celesti. La Bhagavad Gita afferma che uno kshatriya che combatte può essere benedetto in due modi: con i frutti della propria vittoria, se esce vincitore, e se muore con l'asceso ai pianeti celesti. Questo è anche uno dei argomenti nella Bhagavad Gita. Alle parole di Jarasandha, Krishna rispose: O re, i veri eroi sono di poche parole. Questa è la risposta di Krishna Jarasandha: tu parli, parli, ma vediamo i fatti di combattere. Perché dimostrano con i fatti il loro valore. Tu invece parli molto, sintomo questo che la tua morte è sicura in questa battaglia. Noi non vogliamo più ascoltarti perché è inutile ascoltare chi è in punto di morte o chi è in preda all'angoscia. Per combattere Krishna, Jarasandha lo aveva fatto circondare da imponenti truppe da cui si levavano nubi di polvere che sembravano oscurare il sole. Così le schiere di Jarasandha coprirono Krishna, il sole supremo. Immagini tutti i residenti dentro Mathura vedendo che Krishna era circondato da truppi di Jarasandha. Per assistere a quel meraviglioso combattimento, le donne di Mathura si affollarono sulle logge delle case e dei palazzi e alla porta delle città, ma quando videro che il carro di Krishna, decorato con le effigie di Garuda e con disegni di palme, era circondato dalle forze di Jarasandha, tale fu il loro sgomento che alcuni svennero. Accerchiato da ogni lato, mentre i suoi pochi soldati erano bersagliati e sopraffatti dal nemico, Krishna impugnò il suo arco, Sangha, sfilando uno dopo l'altro le frecce dalla faretra. Egli tendeva l'arco e le scoccava contro il nemico con una mira così precisa che gli elefanti, i cavalli e i soldati di Jarasandha passarono ben presto al regno della morte. Quell'incessante pioggia di frecce pareva un turbine di fuoco che distruggeva tutte le armate di Jarasandha. Gli elefanti stramazzavano al suolo decapitati. Questo è un po' forte, questa descrizione di questa battaglia. Per noi che siamo protettori degli animali, erano tutti liberati da Krishna, perché chi va contro Krishna, Krishna lo libera lo stesso, perché Krishna vuole bene a tutti gli esseri viventi, anche quelli demoniaci che vogliono combattere o ucciderlo, lui li uccide e ottengono subito la liberazione. Gli elefanti stramazzavano al suolo decapitati dalle frecce di Krishna. I cavalli crollavano travolgendo carri, stendardi e guerrieri, mentre la fanteria giaceva a terra, teste, mani e gambe mozzate. Aiuto! Così persero la vita migliaia di elefanti e cavalli e si formò un fiume di sangue. In cui le braccia... Questo è un capitolo per i uomini guerrieri che piacciono combattere le guerre. In cui le braccia mozze sembravano serpenti, le teste tartarughe, i cavalli squali e gli elefanti isole alla deriva. Così per la volontà suprema si era creato un grande fiume di sangue popolato dai consueti abitatori di un fiume. Le mani e le gambe dei soldati caduti galleggiavano come alghe e i loro archi trasportati dai flutti parevano onde in quel fiume di sangue che dove rotolavano come tanti ciottoli le pietre preziose che avevano ornato generali soldati. Sri Balaram, detto anche Sankarshan, era quello pezzo di saltare, rotteava la sua mazza con tanta audacia che il fiume di sangue creato da Krishna straripò. Allora, mentre i codardi inorridivano alla vista di quella scena agghiacciante, Gli eroi presero a glorificare l'intrepidezza dei due fratelli, che col loro valore avevano ridotto il vasto oceano delle truppe di Jarasandha a una misera pozzanghera. Chi può dire che quello fosse un combattimento come gli altri? La capacità mentale dell'uomo comune rimane impotente di fronte a questi avvenimenti. Ma se vediamo in essi il divertimento di Dio, la persona suprema, a cui nulla è impossibile, allora si potrà coglierne la verità. Il Signore Supremo crea, mantiene e distrugge la manifestazione cosmica di sua volontà. Che cosa c'è dunque di straordinario in un massacro simile durante un combattimento contro il nemico? Eppure, poiché Krishna e Balaram stavano affrontando Jarasandha proprio come uomini comuni, le loro gesta apparivano meravigliosi. Ben presto tutti i soldati di Jarasandha furono uccisi, solo Jarasandha rimaneva in vita, ma doveva essere molto scoraggiato. Shibalam lo afferrò con forza, come un leone cattura un leone, e stava per legarlo con la corda di Varuna e altre più comuni. Quando Sri Krishna, mirando a un piano più glorioso, le chiese di rilasciarlo. Jarasandha era libero, grande eroe del combattimento, egli si vergognava così profondamente che decise di non vivere mai più da re, ma di ritirarsi nella foresta per meditare in severe austerità. Jarasandha? Sì, perché ha perso tutto. Sì, però poi non è stato così. Invece, ma dovuto alla cattiva compagnia, adesso vediamo l'importanza di buona compagnia, ma sulla via del ritorno alcuni suoi compagni gli consigliarono di riorganizzare le forze per un futuro combattimento, cercando di convincere Jarasandha che la sconfitta era da attribuirsi solo alla sorte avversa. Era tutto un caso. Il combattimento era stato indubbiamente eroico, non bisognava quindi prendere troppo sul serio quella sconfitta, dovuto solo a qualche errore precedente. Dopotutto, lui aveva combattuto in modo irreprensibile. Così i principi incoraggiarono il re Jarasandha. Dai, ce la fai, fare ancora. Sì, è stato giusto una sfortuna, un caso di... E invece... Perduti tutti gli uomini e beffato nell'onore da una liberazione infamante, Jarasandha, re della provincia di Magadha, fece ritorno al suo regno. Così Sri Krishna vinse l'esercito di Jarasandha, che era ben più potente del suo, e senza perdere neppure un guerriero, un carro, un cavallo o un elefante. Là dove gli uomini di Jarasandha erano morti tutti. Era una battaglia non ordinaria. Hai raccontato la storia di Jarasandha, la sua nascita, il nome? È la sua. Ah, arriva qua. Pensa, sì. Gli abitanti dei pianeti celesti, al colmo della gioia, offrirono i loro rispetti al Signore cantando le sue glorie e lasciando cadere su di lui piogge di fiori. Mostrarono così la loro ammirazione per la sua vittoria. Jarasandha si era ritirato nel suo regno e Mathura era al sicuro da ogni imminente attacco. Cantori professionisti come i Sutta e i Magadha e i migliori poeti furono invitati dagli abitanti delle città perché cantassero le vittorie di Sri Krishna. Vedi che c'era anche poeti, salvatori, erano i poeti anche a quei tempi, ma tutta la loro poesia è per glorificare Krishna, i passatempi di Krishna. Si sentivano le trombe, le conchiglie, i timpani e mille altri strumenti, beria, turia, vina, flauto e mridanga, che col loro suono armonioso offrivano al Signore che entrava vittorioso nella città. Una splendida accoglienza. Per l'occasione Mathura era stata pulita da cima a fondo e acqua era stata spruzzata su tutte le strade e i viali. gli incroci, le porte, le vie e i viali erano tutti parati a festa e ognuno nella sua felicità aveva ornato la sua casa, il suo negozio o la sua strada con stendardi e festoni. Un po' dappertutto gruppi di brahmana cantavano i mantra vedici per rendere ancora più bella la festa e più propizia la cerimonia. Le signore e le ragazze di Mathura avevano intrecciato miriadi di ghirlande di fiori. Poi, come vuole il costume vedico, avevano gettato qua e là yogurt misto a germogli d'erba per accrescere il carattere propizio di quei felici momenti di vittoria. Infine, quando il Signore percorse... Ah, bravo, però avevate fatto così una volta. Sì, una volta. Raccontare? No, che è appena uscita questa libro di Krishna, qualche devoto l'ha letto questa descrizione. Quando era uscito il libro di Krishna la prima volta? La prima volta, appena arrivato, nel 1970, e proprio arrivava all'aeroporto. E così qualche devoto aveva le... idea brillante, poco intelligente. Beh, e facciamo come Krishna. Accogliamo come se accoglie Krishna. Portate all'aeroporto un pentolone di yogurt con l'erba dentro, grass, dalle prate. E hanno cominciato a buttare per terra davanti a Prabhupada. Immagini cosa pensava di... gente all'aeroporto, specialmente quelle che dovevano pulire tutti che hanno camminato sopra. Comunque l'intenzione era buona, era positivo per piacere di Prabhupada. Ma non da imitare. Non era esattamente secondo tempo, luogo e circostanza. Infine, quando il Signore percorse le strade delle città, gli sguardi colmi d'affetto degli abitanti non si staccarono da Lui. Krishna e Balaram avevano riportato dal campo di battaglia un ricco bottino, ornamenti e gioielli, e ne fecero dono al re Ugrasena, offrendo così il loro omaggio al nonno, il sovrano regnante della dinastia Yadu. Intanto Jarasandha, re di Magadha, non soddisfatto di quel primo tentativo, attaccò la città ancora 17 volte. Testone. 17 volte. Sempre con le stesse strategie e con lo stesso numero di legioni. E ogni volta fu sconfitto e tutti i suoi soldati furono uccisi da Krishna. Ogni volta, con suo grande disappunto, dovette battere in ritirata, come durante la prima sconfitta. Sì, uno può chiedere, ma e dove trovare tutti quei soldati che devono continuare a riempire di nuovo tutto un nuovo esercito? Risposta? Non lo so. Ma si vede che li aveva e... Se li aveva, ne portava un po' alla volta. Erano delle strategie. Strategia di liberare la terra da queste forze demoniache bellici. Ci vorrebbe anche adesso, però con Krishna a capo. Con Krishna, se no, perché no. Vengono liberati. Qui in queste case venivano liberati perché venivano uccise direttamente, personalmente da Krishna. E poi in presenza di Krishna anche. Presenza e anche da lui personalmente. E ogni volta fu sconfitto. E tutti i suoi soldati furono uccisi da Krishna. Ogni volta, con il suo grande disappunto, dovette battere in ritirata come durante la prima sconfitta. Ogni volta i principi Yadu lo fecero prigioniero e ogni volta lo rilasciarono in modo umiliante. E ogni volta Jarasandha, nonostante il disonore, osò fare ritorno al suo regno. Durante una di queste campagne, un re Yavana, sovrano di una regione a sud di Mathura, attratto dalle ricchezze della dinastia Yadu, decise anche egli di attaccare la città. Pare che questo re degli Yavana, Kali Yavana, fosse stato instigato da Narada. Comunque si può trovare le descrizioni di questi avvenimenti nel Vishnu Purana. Un giorno Gargamuni, il sacerdote della dinastia Yadu, fu oggetto di sarcasmi da parte del cognato e quando, all'udire quelle parole pungenti, tutti i re Yadu risero di lui. Gargamuni si irritò e pensò di generare un essere che avrebbe seminato il terrore tra i re Yadu. Così, dopo essersi attirato il favore di Shiva, ottenne la benedizione di un figlio, Kalayavana, concepito con la sposa di un re Yavana. Passarono gli anni e un giorno Kalayavana chiese a Narda chi fossero i re più potenti del mondo. Narda le rispose che nessuno era più potente degli Yadu. Kalayavana decise allora di attaccare Mathura, la loro capitale. Negli stessi giorni in cui Jarasandha tentava il suo 18° assedio, tutti e due esercita arrivavano a Mathura. Kalayavana aveva sempre desiderato dichiarare guerra a un re di questo mondo, ma non aveva mai trovato un avversario degno di lui. Solo ora che Narda gli aveva parlato di Mathura, vide realizzarsi la sua ambizione e alla testa di 30 milioni di soldati. Partì all'attacco di Mathura. Nel frattempo Sri Krishna stava considerando le gravi situazioni in cui si trovava la dinastia Yadu, minacciata da due formidabili nemici, Jarasandha e Kalayavana. Non c'era tempo da perdere, la città era già circondata da Kalayavana e per l'indomani si aspettava l'arrivo di Jarasandha con le sue legioni, che erano numerosi almeno quanto quelli dei suoi 17 tentativi precedenti. Krishna era sicuro che Jarasandha avrebbe approfittato dell'offensiva di Kalayavana per conquistare definitivamente Mathura. Meglio quindi adottare le misure di precauzione necessarie per difendere i punti strategici della città, pensò. Se Krishna e Balaram fossero stati impegnati a respingere l'attacco di Kalayavana, nulla avrebbe impedito a Jarasandha di entrare da un altro lato della città e prendersi così la rivincita sui re Yadu. Jarasandha era tuttora molto potente e oltretutto le 17 sconfitte precedenti potevano spingerlo per vendette a massacrare tutta la famiglia Yadu o a farla prigioniera e portarla nel suo regno. Krishna decise allora di far costruire una fortezza eccezionale in un luogo dove nessun bipede, uomo o asura che fosse avrebbe potuto raggiungerla. Là si sarebbe rifugiata la sua famiglia, al sicuro da ogni pericolo, mentre lui avrebbe combattuto liberamente contro il nemico. Sembra che Dwarka facesse parte un tempo del regno di Mathura, perché lo Srimad Bhagavatam ci informa che Krishna fece costruire la sua fortezza in mezzo al mare. Ancora oggi si possono vedere nelle baie di Dwarka le rovine di questa fortezza. Infatti l'hanno scoperta sotto l'acqua, perché Krishna era costruita in mezzo all'acqua con tutto circondato dal muro, e hanno scoperto sottomarino tutta questa città antica. Infatti è un po' la leggenda di Atlantide che è preso un po' da lì. A Dwarka. Prima di tutto Krishna fece innalzare nell'oceano una possente muraglia che racchiudeva una superficie di 249 chilometri quadrati. Il progetto e la costruzione di questa favolosa opera furono affidati a Vishvakarma. Nessun altro architetto, infatti, avrebbe potuto erigere una fortezza simile e per di più sul mare. Ma Vishvakarma, l'ingegnere dei Deva, è in grado di creare capolavori strabilianti in qualsiasi parte dell'universo. Dopotutto, se pensiamo agli enormi pianeti che fluttuano senza peso nello spazio secondo l'ordine cosmico stabilito dal Signore Supremo, la costruzione di una fortezza di 249 km quadrati in mezzo all'oceano non ci sembra poi un'impresa così straordinaria. Finisco questa pagina. Lo Srimad Bhagavatam ci descrive questa nuova città costruita sul mare, fortezza inespugnabile. Dwarka, una rete di viali, strade e vicoli, si intersecavano armoniosamente con sentieri e giardini ricchi di kalpavriksha. Non era come solo una fortezza, era una città opulentissima, una residenza di Krishna. Gli alberi dei desideri, alberi speciali che si trovano solo nel mondo spirituale e che non hanno niente in comune con gli alberi che crescono qua giù. Ma per volontà del Signore Supremo tutto è possibile, anche piantare alberi dei desideri in una città marina. Ad accrescere la ricchezza di Dwarka c'erano portali immensi di squisito gusto artistico, i Gopura, che ancora oggi si possono ammirare nei maggiori templi, e magnifici palazzi che si innalzavano fin quasi a toccare il cielo. Sui portali e sui palazzi splendevano giare d'oro per l'acqua, Kalash, posti lassù in segno di buon augurio, di giare ricolme d'oro, d'argento e di cereali erano piene anche le cantine di ogni dimora. E altre giare d'oro colme d'acqua erano state poste qua e là nella stanza. Le camere da letto erano incastonate di pietre preziose e i pavimenti erano mosaici di gemme maracatta. Questa descrizione dell'opulenza di Roma, che poi vedremo verso la fine del decimo canto, l'altro volume del libro di Krishna. C'è una descrizione più dettagliata di Dwarka, tutta l'opulenza e la bellezza di Dwarka. Era presente la Murti di Vishnu, adorata dai discendenti di Yadu. Ogni quartiere ospitava uno dei quattro Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Erano divisi in quattro quartieri. Indici che la divisione della società in differenti Varna esisteva già a quell'epoca. Al centro si reggeva il palazzo del re Ugrasena con i suoi annessi, splendida città nel cuore della grande città. Ok, andiamo qua. Scusate che era un po' da guerra. Un po' violenta. Violente. Ma sempre trascendentale. Nel passatempo di Krishna c'è tutto, c'è la danza rasa e la guerra. E ai veri devoti piacciono tutti i passatempi di Krishna perché sono sempre per il bene di tutti. Aspettiamo. Che mi dai il nome? Ah, ok. Che si vede anche il tramonto. Da da da. Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. La comunità italofona delle radio e televisione ha concluso il processo del rinnovo del proprio statuto con l'elezione del nuovo direttivo. Al termine delle votazioni che si sono svolte il 20 ottobre 2020 durante l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo è composto da Maurizio Canetta, direttore della Radio Televisione Svizzera, e Maria Dubesset della RAI Radio Televisione Italiana, che sono stati confermati nelle loro cariche di presidente e segretario generale delle comunità, mentre Donatella Pohar di Radio Capodistria subentra al vicepresidente Antonio Rocco. I lavori dell'Assemblea hanno evidenziato il ruolo della comunità, che in questo periodo di crisi come elemento di unione. Il 1 novembre Radio Romania Internazionale ha celebrato la giornata dedicata all'ascoltatore, dedicata al periodo che stiamo vivendo nel corso delle trasmissioni in italiano. La radio romena ospita alcuni dei suoi ascoltatori per chiedere dei pareri sulla situazione della crisi dovuta al Covid-19 e sul ruolo delle informazioni radiofoniche internazionali. La giornata si celebra in occasione della prima trasmissione della radio romena, eseguita il 1 novembre del 1928. La stazione aveva iniziato le prove il 1 aprile del 1928 sui 236 metri con una potenza di 12 kW. Passando negli Stati Uniti d'America, la Federal Communication Commission, ossia l'ente regolatore della radiofonia, ha autorizzato in questi giorni tutte le emittenti radio che lo richiederanno a trasmettere solo in digitale, in onde medie e in modulazione di frequenza. La qualità digitale permetterà di coprire segnali per le aree periferiche, in quanto i segnali internet e quelli telefonici non sono soddisfacenti e non è autorizzato il DRM. Anche per questa settimana il tempo a disposizione è terminato. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto o chi avesse domande da farmi può contattarmi al seguente indirizzo: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031 Dolo, Venezia. Oppure scrivere via posta elettronica al seguente indirizzo: radionotizie@hotmail.com. Da qualche settimana Radio Notizie ha un nuovo sito di web che vi invito a visitare al seguente indirizzo: www.aer.org.es/radionotizie. Augurandovi una buona settimana, ci sentiamo la settimana prossima. Dario. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. The Shortwave Radio Audio Archive, SRAA, is a collection of shortwave radio recordings that you can download or listen to as a podcast. The collection grows every day and includes both historic recordings and current recordings from the shortwave radio spectrum. The goal of this site is for shortwave radio enthusiasts to have a place to store, archive, and share their radio recordings with the world. shortwavearchive.com. Service of Voice of Korea from Pyongyang, the capital of the Democratic People's Republic of Korea. Now, here is a mixed chorus. Song of General Kim Il-sung. Song of Janitor Kim Jong-il. Yeah. are listening to VOK, Voice of Korea, News Now. Kim Jong-un, chairman of the Workers' Party of Korea and chairman of the State Affairs Commission and Supreme Commander of the Armed Forces of the Democratic People's Republic of Korea, gave field guidance to the site of damaged rehabilitation in Kimhwa County under construction. He was accompanied by Park Jong-chun, Lee Il-hwan, Kim Yong-soo, Cho Yong-won, Kim Yo-jung, Park Tae-sung, and Hyun Song-wol. The soldier builders have turned out in the campaign for damage rehabilitation in the eastern area in hearty response to the idea and spirit of the 16th meeting of the Political Bureau of the 7th Central Committee of the Workers' Party of Korea and built brilliant creations of the era of the Workers' Party in the area swept by natural disasters only in over 40 days by making feats and innovations with patriotism. Going around the construction site of damage rehabilitation, Kim Jong-un learned in detail about the sizes of damages in dwelling houses, cropland, transport, land and environment, urban management, electric power, posts and telecommunications in the area and about their rehabilitation. Hearing a report that low-story dwellings in the township area and single-story houses in the village area for nearly 1,000 families are under construction in Kimhwa County at present, and it amounts to about 88% of the total volume of the project, he expressed great satisfaction, saying the People's Army is making proud achievements to surprise the world people under the energetic leadership and meticulous guidance of the party. He said he is greatly moved by the patriotic deed and revolutionary spirit of struggle of the service personnel of the People's Army, who have brought about a great change in the wake of the damage rehabilitation in Gangbung-mi of Kumcheon County. He proudly stated that such a result brought by the People's Army is the mental wealth the party regards as the most precious one before the mere material creation. Kim Jong-un asked the chairperson of the County Party Committee time and again if the people in the county like, and heartily said, if all of them like, I have nothing more to desire. It will be a so joyful and proud struggle if the people could lead a happy life again in the modern houses, becoming to an ideal civilized society planned by the party, getting rid of the backwardness of a time. The chairperson of the County Party Committee and leading personnel of the construction unit told him, seeing the wonderful houses being built rapidly despite the bottlenecks and difficulties according to the measures taken by the party, the local people said the houses are being built faster than the cooking speed, and now they can have the houses not run down even if the sky were to fall. Listening to them, Kim Jong-un said, I'm really happy to hear that our people like it so much. I'm encouraged by the frank and candid voices of the people. The estimation of the new dwellings should be got from the people. In the campaign for damage rehabilitation, the whole processes of the project, including design and construction, should be done from the viewpoint and on the principle of respecting the people, the people first principle, he stressed. Kim Jong-un went on to say, looking at the new houses built in the area of damage rehabilitation, I feel something wanting, viz. The design of houses made in the same way according to a certain standard. It would have been better if the originality had been given in consideration of the excellent culture and geographical characteristics of the region and on the principle of ensuring the convenience and demand of the people, and if the artistic harmony with the surroundings and the diversity had been appropriately combined. He gave specific instructions on the issues of division to be guarded and overcome in the designing sector and on the important idea of the party's construction policy. Kim Jong-un underscored the need to rebuild the local industry factories on a modern basis yearly and revitalize production to improve the economic life of the county and steadily increase the level of material life of the people now that Kimha County has been changed. He highly appreciated time and again that this time too, the People's Army is making a great contribution in the struggle for socialist local construction, applying the demand and desire of the working people, and said, the soldier builders should deeply bear in mind that architecture is the epitome of the ideological and cultural height, intuitively representing the height of the idea and civilization of their era. Keeping the infinite loyalty and filial duty to the party and the people, and with the disposition and mettle of a stubborn struggle, they should build the standard modern houses becoming to the height of the civilization world desired by the party and the state, and representing the peculiarity of the locality faster and better with the sincerity of building up their native homes and present a great pleasure to the people. On the way to and from Kimha County, Kim Jong-un dropped in at fields in different afflicted areas to acquaint himself with the farming situation. He highly praised the efforts of the agricultural workers who have kept their precious crops to the last, saying, the crops are in good condition, which could not be expected at the time of the flood damage. On every field, I can see the clear vestige that the damage had been overcome. Such a result is possible despite the unusual damages, thanks to the sincerity of the farmers shown to every plant and their patriotic sweat and effort. He confidently said, though the theory of the rigorous nature swept a lot of things in an instant, new good houses have been built in the damaged areas and the crop damages minimized enough to expect the grain yields as good as the peak year. This is an unprecedentedly difficult year, but it will be a year of great victory with especially great pride of the struggle. Today's trials have not made us lose heart, but as firm as the rock, and advanced further and made it possible to know better how loyal, patriotic and strong our people are. In such a faithful people, I am greatly encouraged and keenly feel once again that there are no difficulties not to be overcome in the world, he warmly added. Kim Jong-un, chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea, sent a message of sympathy to the President of the United States of America. The message read, Washington, Your Excellency Donald Trump, President of the United States of America. I received the surprising news that you and the First Lady tested positive in the coronavirus test. I express my sympathy to you and your family. I sincerely pray for your and the First Lady's recovery as early as possible. You'll surely get over your disease. I extend warm greetings to you and the First Lady. Kim Jong-un, Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea, Pyongyang. October the 3rd, Zhuzhi 109 or 2020. The Khoson Fruit Processing Factory was inaugurated on September the 30th. Present at the inaugural ceremony were Lee Il-hwan, Vice Chairman of the Central Committee of the Workers' Party of Korea, officials concerned and officials and employees of the Khoson Fruit Processing Factory under the Khoson Combined Fruit Farm. Lee Il-hwan made an inaugural speech. He stressed that the Khoson Fruit Processing Factory is a precious creation brought about by the energetic guidance of the respected Supreme Leader Kim Jong-un, who is translating the instructions of the great leader Kim Jong-il into brilliant reality. Under the energetic leadership and great painstaking efforts of Kim Jong-il and Kim Jong-un, Khoson County has been turned into a vast youth orchard, into larger-scale fruit production and processing base with modern pig farms, scientific learning space and fruit processing factory, and into a place good to live in with dwellings for thousands of families and cultural and welfare facilities. The emergency anti-epidemic sectors at different levels are directing big efforts to taking scientific anti-epidemic measures to thoroughly check the inflow of COVID-19. In close contact with the education and scientific research institutions, The Central Emergency Anti-Epidemic Sector is actively developing and producing disinfectants of higher efficacy. They are pushing ahead with the work to provide a scientific guarantee to the prevention of the epidemic by studying and introducing effective disinfecting methods. The areas along the borders, coast, and inter-Korean demarcation line have strictly taken proactive and offensive anti-epidemic measures to firmly consolidate the blockade walls and induce the inhabitants to voluntarily observe the regulations and order. The units dealing with the delivery are making preparations to disinfect the goods and leave them intact with more responsibility and introduce another new disinfecting methods and anti-epidemic means. A scientific system for medical checkup and disinfection has been established in the areas of campaign for damage rehabilitation to prevent the spread of the pandemic. Passenger liner Changzabong 1 has been built and launched on the river Changza in Chagang Province of the Democratic People's Republic of Korea. It will pass between the Ryudong area of Gangye City and Hongju Youth Power Station No. 1. It will be used as an excursion ship on the river Changza while providing the people with traffic conveniences. World media are giving wide publicity to the reality of the DPRK, where socialist modern villages are being built after the natural disasters, and an unprecedented large-scale rehabilitation campaign is done to defend the people's happiness. The Arab Korean Cooperation Council, in an article posted on its website, wrote, "In the DPRK, the state has never neglected the work of looking after the people, despite manifold difficulties and hardships. The measures of the Korean party and government to heal the aftermath of the rigorous natural disasters make the international community think once again of the meaning of the words heard from this country, that there is no greater emergency than the pain of the people, and no more important work than relieving the people of their misfortune." The Senegalese internet newspaper Angpak said, "Chairman Kim Jong-un understood the reality of Gangbung-ri, Gungcheon County of North Hwanghae Province, which suffered great damage by heavy rain and strong wind, and immediately issued a combat order for the People's Army units on taking away all the buildings in the village site to be rebuilt so as to facelift the village. Thanks to his wise leadership and the patriotism and loyalty of the service personnel of the People's Army, Gangbung-ri has been cleared of the vestige of the great disaster and changed into a model village of the socialist countryside." The Vietnamese internet news VietnamNet reported that the dwelling houses built in Gangbung-ri were designed to be cozy and flawless in and out, and a wonderful village has been built in the place with vivid traces of a natural disaster. And that's the end of the news read by Kim Chun-oh. This is Voice of Korea. You enjoy your female soul in Bangcheng. I'm to wish. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network, @gmail.com. Buon ascolto! Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buonasera cari nel Signore, stiamo nella stanza delle letture spirituali speciali e che voglio fare cioè voglio finire abbastanza presto perché vorrei andare avanti. Adesso stiamo leggendo questo libro introduttivo all'induismo, che però ovviamente è un testo che rimane insomma abbastanza freddo, no? Perché cerca di dare un quadro dell'induismo analizzandolo da moltissimi punti di vista, però sempre con un occhio clinico, no? Con un occhio che partecipa, perché questo è l'occhio giustamente di questa scienziata, di questa storica. Ma vorrei insomma finirlo quanto prima, perché poi vorrei entrare in un discorso un pochino più coinvolgente. E quindi continuiamo con questa lettura che abbiamo iniziato e per questo ormai la dobbiamo finire. I quattro fini dell'uomo. Esaminando la struttura teorica dei valori, si rimane sempre all'interno dell'ortodossia bramanica, definita dai suoi due poli. Nulla di più semplice a prima vista, poiché si tratta di una sola e unica gerarchia di quattro termini che ciascuno conosce a memoria e deve rispettare. La liberazione, moksha, al vertice, poi il dharma, vale a dire l'ordine socio-cosmico che organizza questo mondo empirico, l'artha, che comprende tutti gli interessi materiali, ricchezze, successo nelle imprese e mezzi per condurle a buon esito, e infine il kama, che è in sostanza il desiderio e il piacere amoroso. Tuttavia sappiamo già che non si possono mettere tutti e quattro in ordine, poiché il moksha riguarda colui che esce dalla società, mentre gli altri tre sono i fini che persegue l'uomo che vive nel mondo. E forse non è così semplice come sembrerebbe il perseguire insieme, ma ordinandoli gerarchicamente, dei fini così divergenti come il piacere amoroso, l'interesse materiale e, ma come si può designare il Dharma con un termine che ci richiami delle idee così evidenti come i primi due? Piacerebbe infatti poter usare una parola che si riferisse ugualmente all'individuo, anche se si tratta di esprimere un livello superiore di conoscenza e di coscienza. Ma bisogna respingere tutti gli equivalenti inglesi, francesi o italiani del termine Dharma, proposti dalle tradizioni correnti che cercano di avvicinare la realtà indiana al lettore occidentale. Non è né la morale, né il bene, né il diritto, né la giustizia, né la legge. È l'ordine socio-cosmico, del quale si può dire che è buono semplicemente in quanto è necessario al mantenimento dell'esistenza felice del tutto costruito dal trimundio, trailokya, terra, cielo e spazio intermedio, o più tardi terra, cielo e regioni inferiori. Esso è insegnato agli uomini dalla rivelazione con la mediazione dei brahmani, in linea di massima senza alcun riferimento a un bene trascendente. È in se stesso il bene, per il solo fatto che garantisce la continuità del mondo empirico. Se non è osservato da un individuo, costui può aspettarsi la peggiore calamità. Se è la società nel suo insieme che trascura le prescrizioni del Dharma, il mondo perirà. Ma sarà lo stesso se è un Varna che non adempie le sue proprie funzioni o pretende di appropriarsi di quelle altrui. In qualsiasi maniera il disordine si installi nel trimondio tra i Lokia, è la vita di questo tutto che è in pericolo. L'imperativo assoluto dunque non passa qui né attraverso una volontà divina né per la coscienza individuale. Si impone dall'esterno e globalmente, senza possibilità di sottrarvisi. La costruzione è in effetti massima. Si vede subito che la nozione del Dharma opera a diversi livelli, in quanto la liberazione è inserita nel modello d'ogni vita umana con l'espediente dei quattro stati di vita. Essa fa altresì parte, in un certo modo, dell'ordine cosmico totale. Essa è quantomeno ciò che lo mantiene nella buona direzione, ricordando che l'uomo è chiamato a riassorbirsi del tutto indifferenziato, in cui la nozione d'ordine cosmico non ha più senso. Il Dharma è dunque quest'ordine globale che include persino ciò che lo nega e consiste nella giusta gerarchia dei quattro fini dell'uomo e nel rispetto della gerarchia dei quattro Varna e della loro corretta articolazione. A questo livello, il più comprensivo della nozione, il Dharma è già ciò che compete al Brahmano. Sta a lui vedere che la totalità dell'ordine socio-cosmico sia rispettata. Così egli regola le condizioni nelle quali un uomo può accedere al sannyasa. In teoria ciò non è possibile che al capo di famiglia che ha veduto nascere i suoi nipoti, del quale cioè sicura la discendenza. È la condizione sine qua non perché il moksha possa inserirsi nel Dharma globale senza causarvi perturbazioni. Il ritiro dalla società esige che siano prima assolti tutti i doveri sociali, i tre debiti congeniti. Ben inteso, sono previste delle deroghe, non già perché questi debiti non contino, ma perché ci si possa liberare di essi senza passare per lo stato di capo di famiglia o accedendo direttamente a quello di sannyasin. Bisogna infatti permettere l'adempimento dei desideri kama di ciascuno, compreso il desiderio della liberazione. È così che i numerosi trattati di Dharma, le leggi di Manu, Manavadharma Shastra, non essendo che il più noto insieme e il più ortodosso di essi, dedicano un capitolo al rinunciante. È ancora tale senso comprensivo del termine Dharma che fa del Brahmano il legislatore dell'arta e del karma. Dati i rapporti stretti che esistono fra il primo e il secondo Varna, nessuno si meraviglia di veder comparire nei trattati di Dharma un capitolo su Dharma dei re. Vi si tratta soprattutto delle condizioni che fanno di un re un buon re, rispettoso dell'ordine oggettivo e dei suoi superiori, i Brahmani. Ma si è meno preparati a vedere i Brahmani trattare dell'arta e del kama per se stessi. Bisogna arrendersi all'evidenza. L'unico trattato di arta che possediamo è attribuito a un Brahmano. Lo stesso vale per i famosi Kama Sutra, aforismi sull'amore, lo stesso ancora per le numerose raccolte di regole e di niti, letteralmente condotte, che completano il trattato dell'Artha, ma si rivolgono più in generale a ogni uomo che persegua un fine materiale qualsiasi e ricerchi innanzitutto il successo. È forse qui la nostra organizzazione dei valori rischia di frapporre un vero ostacolo alla comprensione dell'India. Implicitamente noi opponiamo il Dharma, nel senso più stretto del termine, che ritroveremo tra poco, all'Artha e al Kama, come la sfera dei valori e quella dei bisogni reali, quasi istintivi, dell'individuo empirico, e vediamo i valori come ciò che deve dare una struttura a tutti i bisogni, senza eccezione, e istituirvi delle norme trascendentali e spesso di ostacolo all'appagamento dei bisogni. Ci scontriamo con la triste realtà che ci insegna che un gran numero di circostanze di fatto si fa beffe della morale e della religione, ma continuiamo a sostenere con ostinazione un regno di principio di valori. Questa non è la visione indiana delle cose. Dal fatto che l'Artha e il Kama siano inferiori in rapporto al Dharma non consegue che essi debbano necessariamente piegarsi alle esigenze del Dharma. Questo non si presenta come un ordine di valori che tutto penetra, ma nel suo senso più lato come una strutturazione dell'insieme del reale che lascia spazio ai livelli dell'interesse materiale e del desiderio amoroso. Anch'essi sono dei livelli di valore al tempo stesso che sono e perché sono dei piani di realtà che conservano la loro autonomia relativa. Nei trattati di Dharma, in quelli dell'Artha e del Kama, si ritrova la medesima preoccupazione per la gerarchia sociale e per il Dharma, ma anche la medesima affermazione che nessuno dei tre fini deve essere perseguito con detrimento degli altri, neppure il Dharma. Nuova occasione di prendere coscienza che questo non rappresenta un'esigenza di tipo morale in opposizione ai due altri fini, ma che non è esso stesso come uno dei fini perseguiti, che non limita gli altri, che se non esteriormente, senza trasformarli intrinsecamente. Altrimenti non si potrebbe comprendere, per esempio, come è più riprese nella letteratura e più particolarmente nella letteratura epica, una donna solleciti un uomo a piegarsi al suo desiderio, kama, e lo obblighi a ciò in nome del Dharma. Essa morirà se non otterrà soddisfazione immediata. Il Dharma qui invocato è il Dharma nel senso più comprensivo del termine, che dà il suo posto a ciascuno dei fini dell'uomo, ma potrebbe trattarsi anche del Dharma proprio dello Kshatriya, terzo senso del termine che presto vedremo, poiché l'eroe al quale la donna ricorre è un principe. Così nell'Artha Shastra, nel Niti Shastra e nel Kama Sutra sono opere che trattano prima di tutto delle regole di condotta che favoriscono il successo negli affari del regno o personali e in amore. Non v'è uomo che viva in questo mondo e che non desideri la ricchezza, né re che non aspiri ad accrescere la propria potenza e a rinsaldare la sicurezza dei propri domini, né essere umano che non desideri un altro essere umano. Bisogna qui formulare le cose nella maniera più generale possibile, in particolare il desiderio amoroso che comprende il desiderio omosessuale, che deve trovare anch'esso il proprio appagamento, al quale non si oppone alcun divieto di principio. Parlando del Dharma nel senso più comprensivo, si è stati normalmente condotti ad alludere al Dharma in un senso più stretto. Questo è il fine kne per ogni uomo. Deve collocarsi fra il moksha da una parte, l'artha e il kama dall'altra. Il moksha non è più di questo mondo, mentre l'arta e il kama si riferiscono alle realtà visibili, alle soddisfazioni immediate e tangibili. Il Dharma è quindi l'ordine delle realtà invisibili all'interno del trimondio. Tutto ciò che esige dall'uomo un'attività rituale o una condotta regolata da un'altra cosa che una soddisfazione immediata, un rapporto con gli abitanti degli altri mondi e con quelli di questa terra che egli non può vedere. È questo un altro modo di dire che esso è la religione dell'uomo che vive nel mondo, ma una religione che si aggiunge al resto della realtà piuttosto che trasformarla. Siamo qui agli antipodi rispetto alle strofette liriche e nostalgiche delle religioni cosiddette primitive, cosmiche o naturali, e sulla loro concezione d'un sacro onnipresente. Il sacro è probabilmente per un indù presente in molte circostanze nelle quali è affatto assente in Occidente. Ma la contropartita di questo è che ciò è che c'è del profano del quale si può godere senza ripensamenti, nella misura in cui lo si è debitamente circondato di sacro come d'un baluardo. Sappiamo già d'altra parte che il bramano è il sacerdote di questa religione e il dotto che insegna tutto ciò che si deve sapere. È l'ambito che noi abbiamo visto d'altra parte costruire il Brahman nel senso sociale del termine. Il Brahman è l'amministrazione del Dharma e il potere che questa suppone. In tal senso l'arta e il kama, nel significato di oggetto di desiderio e non più di desiderio, di cui godiamo nel presente, dipendono largamente dal modo in cui abbiamo osservato il Dharma nel passato. Essi sono infatti le forme essenziali di felicità che l'uomo cerca in questo mondo. La felicità è il tratto dei meriti. Ancora Dharma, cioè risultato dell'osservanza del Dharma, accumulati precedentemente in un'altra vita. Al contrario, l'infelicità in arte e kama proviene dai demeriti di una vita passata. I trattati dei Dharma confondono, in effetti, due livelli del Dharma e ne avremo subito la spiegazione facendo comparire un terzo livello che si trova anch'esso parzialmente confuso con i primi due. Dalla visione gerarchica della società umana consegue immediatamente che il Dharma non ha un contenuto identico per ogni gruppo umano. Ciascuno ha il suo proprio Dharma, il suo Svadharma. Ciò è scritto nella ripartizione delle funzioni quale si è tracciata nel primo capitolo. Là lo Svadharma appariva semplicemente come la funzione sociale che ogni Varna compiva nella società brahmanica. Al Brahmano il Brahman, la funzione sacerdotale. Allo Kshatriya lo Kshatra, la funzione guerriera e il principato. Al Vaishya il commercio e l'agricoltura. Allo Shudra il servizio dei Varna superiori, che comporta la sottomissione ai loro valori. La definizione è assolutamente costante, poiché la si ritrova senza alcuna variante sia nelle leggi di Manu che nell'Artha Shastra. La stessa cosa ora può essere formulata in termini fini dell'uomo, Purushartha, e questo comporta ai nostri occhi un certo paradosso. Notiamo anzitutto l'apparizione del termine artha in questa espressione. Lo si traduce qui nella sua accezione più comprensiva con scopo, fine perseguito, oggetto ambito. È in quanto tale che serve anche a designare ciò che noi chiamiamo il significato della parola, in effetti ciò cui si mira nel parlare. Come il termine Dharma, vi è dunque un'accezione comprensiva del termine Artha, nella quale si trova incluso persino il Moksha, giacché è il supremo fine dell'uomo, in senso più stretto esso il fine che si inserisce fra il Dharma e il Kama. In un primo tempo, i quattro fini dell'uomo riguardano ogni individuo e si potrebbe pensare che è soltanto il rapporto con il Dharma e non con il Moksha a mutare secondo l'appartenenza sociale. Grosso modo, ogni individuo ha un rapporto coi quattro fini, anche se bisogna perciò prendere in considerazione l'insieme delle sue vite successive. Ma più si discende nella scala sociale, più i fini reali che l'uomo può perseguire sono i fini immediati dell'artha e del kama. Ciò equivale a dire che l'uomo poi, più individuale nelle sue attività e aspirazioni quotidiane, sarebbe lo sudra, il sudra. Non ci sarebbe al limite individuo che nel senso più empirico del termine, più prossimo all'unità psicofisica. Tuttavia la nozione di svadharma porta una correzione importante, sovrapponendo un'altra struttura ai purushastra, ai purushartha, e soprattutto reintroducendo implicitamente nella loro teoria la considerazione del gruppo sociale, tant'è vero che a nessun livello ci si preoccupa del solo individuo. Questo aver messo in corrispondenza lo svadharma e il purushartha è lungi dall'essere una teoria artificiale, un prolungamento meccanico delle classificazioni e delle equivalenze in cui eccelle il pensiero indù. Altrimenti si sarebbe cercato, bene o male, un rapporto parola per parola fra i quattro varna e i quattro purushartha. Ora esso non esiste, anche se bisogna porre il dharma come svadharma nel brahmano e l'artha in relazione con lo kshatriya, come si vedrà. Ma è il kama che presenta il caso più originale. Se la sua teoria non è presentata che in un solo testo, la nozione di kama si trova in tutte le speculazioni indiane e dà luogo a dottrine e pratiche filosofico-religiose nelle quali la sua funzione è centrale. Adesso leggiamo un paragrafo interessante perché parla. Vediamo un po' cosa ci rivela Madeleine su l'amore dovere delle donne. Non si insegnerà nulla di nuovo a nessuno dicendo che la civiltà indiana, come tutte le altre, è considerata decisamente dal punto di vista dell'uomo e che la donna è in essa un'eterna inferiore. Ma ciò non ha certamente mai e in nessun luogo significato che essa non avesse il suo posto proprio e indispensabile, debitamente riconosciuto. I codici di legge, come quello di Manu, contengono indicazioni sparse un po' dovunque sull'argomento, e sempre si tratta di regolare l'atteggiamento degli uomini nei confronti delle donne. L'opinione generale su quest'ultima va dalla donna è mobile all'elogio della sposa fedele, la Sati, che in una scala equivale alla dea Shri, dea che riunisce in sé beltà, ricchezza e prosperità, poiché essa è inseparabile da una stretta osservanza del Dharma. Si è tuttavia un poco sorpresi dal fatto che la donna sia descritta innanzitutto nel bene e nel male, nel suo rapporto con l'uomo da cui essa dipende, soprattutto col marito, e secondariamente come madre. Ciò potrebbe essere un indizio che il famoso concetto passepartout di dea madre non ha l'importanza religiosa che la scienza moderna gli ha voluto attribuire in India. Senza dubbio essa deve essere genitrice e in modo particolare deve dare dei figli al suo sposo che ne ha bisogno nell'aldilà. Ma non può farlo che se vi è attrazione reciproca, fra gli sposi. Per esempio, Manu, terzo capitolo 60-61. Così la funzione riproduttrice è subordinata alla soddisfazione del desiderio. Abbondano i miti che vanno in tale direzione, che danno persino l'iniziativa del desiderio alla donna. Così è permesso dire, senza forzare il passaggio, che la donna perfetta, la Sati, quella di cui la letteratura britannica nel XIX secolo ha fatto per noi la vedova che si getta sulla pira funebre del marito, ha l'amore come primo dovere, o per usare un linguaggio più omogeneo, ha l'amore per Svadharma. Certo, non è così che si esprime abitualmente il Dharma delle donne. Il loro dovere si riassume in una formula: servire lo sposo come il loro dio principale. Ma quando si conosca il posto centrale del desiderio amoroso nel legame coniugale, la deduzione viene da sé e non ha più nulla di teorico. Si sa senza dubbio che le prostitute debbano fare uno studio più particolare del kama, poiché la loro professione è in relazione con esso. Ciò significa, e si vedrà un'analoga modificazione per l'artha, che nonostante la gerarchia universalmente ammessa dei fini dell'uomo, esse devono dare più importanza al kama che agli altri fini. È un altro modo di esprimere il loro svadharma in un contesto nel quale l'individuo è sempre assorbito dalla propria funzione. Non si può immaginare che la cura del kama di tutti sia affidata a delle donne, senza che costoro abbiano per fine personale principale il kama. Anche quando il trattato del kama le mostra altresì preoccupate dei propri guadagni, artha. Ma le prostitute non sono le sole chiamate in causa. Tutte le donne, comprese le giovani prima del matrimonio, devono studiare almeno la pratica del kama, e è l'unico trattato tradizionale al quale esse abbiano accesso di fatto e in teoria, poiché negli altri campi della vita esse non sono che il prolungamento del loro padre prima del matrimonio e poi del loro marito. Qui invece esse hanno un'iniziativa, un'esistenza propria. È Vatsyayana, il Brahmana autore del Kama Sutra, che lo dice, e possiamo chiedergli, credergli. La tradizione vuole che egli abbia scritto quest'opera una volta giunto allo stato di Sannyasi, forse anche a Benares, dunque in un'età avanzata nella quale egli non attendeva ormai più che la liberazione, moksha. Un trattato così colmo di saggezza che avrebbe potuto essere scritto da un uomo che non fosse un religioso, approdato dall'altra riva dell'oceano dalle umane passioni. Del resto l'oggetto del libro va assai oltre la descrizione delle pratiche amorose immortalate nella pietra dei templi di Gajarao, io l'ho visti, e da alcuni altri. Si dice esplicitamente che se un trattato del kama è necessario è perché ogni condotta umana è sottomessa a norme da una parte, quelle del Dharma essenzialmente, e a regole tecniche dall'altra, e che l'uomo e la donna non possono amarsi come le bestie s'accoppiano. Anche in questo campo, così come ciò che distingue il genere umano dall'animalità è la sua capacità di seguire un modello che gli presenta la tradizione brahmanica, il solo modo di garantirsi un buon risultato. Così una delle prime preoccupazioni dell'autore è quella di enunciare le regole del Dharma che devono essere rispettate perché la ricerca del desiderio amoroso si rivolva e si risolva in un piacere senza portare con sé dei dolori. Ma io sinceramente direi di interrompere questa lettura e iniziarne altre perché la trovo un po' pesante, nel senso che non me lo ricordavo. Questo è un testo che io lessi tanti anni fa, all'inizio proprio dei miei studi, e sinceramente me lo ricordavo più interessante e infatti avevo scritto anche tante cose. Guardate, queste sono cose di tanto tempo fa. E però devo dire che è un testo noioso, e poi la traduzione secondo me non è neanche molto fatta bene, quindi io siccome questa stanza la voglio dedicare a delle letture spirituali speciali, nel senso che devono essere letture molto più dentro l'aspetto veramente devozionale che viene fuori dall'India, perché poi è quello che mi interessa di più e credo che sia quello che poi interessi di più quelle poche rarissime persone che possono vedere i miei video. E quindi vorrei interrompere questa lettura perché non ci trasmette niente dal punto di vista spirituale, e invece a noi interessa questo, insomma, noi siamo cari del Signore e quindi vogliamo fare delle letture che non mettano una distanza tra noi e il Signore, ma assolutamente ci avvicinino sempre di più a Lui. E quindi io direi che dai prossimi video forse sarebbe interessante casomai leggere come primo testo proprio un testo importante che è la realizzazione spirituale, perché era il secondo testo che volevo leggere dopo di questo, ma a questo punto non conviene continuare in questa lettura. Poi non lo so, se c'è qualcuno che vuole che io continui, me lo scrivete, io lo faccio, non è un problema. Però direi di continuare dal prossimo video con quest'altro testo che sicuramente troveremo molto più stimolante. Per ora vi saluto e ci vediamo domani con la lettura nell'altra sezione per la continuazione della lettura del Vangelo secondo Gesù di Yogananda Paramahansa. Buona serata e arrivederci. Voglia di Talk Radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Radio Krishna è questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Hare Krishna a tutti carissimi radioascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale. E in particolare di questo programma. Fuori dal tempo. Fuori dal tempo, una selezione dei migliori programmi di RKC. E bisogna dire che in questi anni RKC vi ha veramente proposto dei programmi molto molto belli. Quest'oggi vi voglio proporre, tanto per cominciare, da una speciale taglia di Praladesh Das, un argomento che è sempre il principale argomento sulla bocca dei devoti, il nome di Krishna. Il nome di Krishna, che ha la stessa potenza di Dio stesso, di Krishna stesso, come mai ben sappiamo, e che i devoti di Krishna cantano tutto il giorno attraverso il Mahamantra Hare Krishna. Il Mahamantra Hare Krishna, che è la base di ogni nostra pensiero, di ogni nostra attività, è l'inizio, la metà e la fine di ogni cosa, perché in questa età di Kali è l'unico modo, ce l'ha detto il signor Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso, non più di 500 anni fa, quindi abbastanza recente, ci ha detto appunto che in questa età di Kali, questa età di discordia e di ipocrisia, dove le nostre capacità intellettuali, fisiche, non sono molto elevate o comunque non paragonabili a quelle di altre ere, ci ha detto che non c'è altro modo per realizzarsi spiritualmente se non il canto del santo nome di Krishna. Se non il Mahamantra Hare Krishna. Ma andiamo a sentire cosa ci dice in proposito Praladesh Das. God, Dieu, Dios, Geova, Allah, Buddha, Ram, Krishna. I nomi possono essere tanti, ma Dio è uno! Krishna, bentornati a Special Italia. qui è Pradesh Das che vi parla dagli studi di Padova sulla frequenza di 9693-800 MHz per il vostro piacevole ascolto. Avete sentito all'inizio, sono vari nomi che definiscono Dio, però Dio è uno. Quindi non ci confondiamo, non è che il Dio dei devoti di Krishna è un Dio diverso dal vostro, da quello dei cristiani, da quello dei buddisti, da quello dei musulmani, assolutamente no, è la stessa unica persona, solo che naturalmente Dio non è come una persona come noi, limitata, noi abbiamo un nome, due, tre al massimo, quattro, cinque, qualcuno i più nobili, ma Dio invece di nomi ne ha infiniti. E così ha infiniti nomi e si manifesta questi suoi nomi differenti a seconda del tempo, della circostanza, del luogo e delle persone a cui si deve manifestare, di quanto le persone sono disposte a credere e ad arrendersi a Lui. Naturalmente voi state ascoltando Radio Krishna Centrale, da questo io, Pradesh Das, e tutti noi di Radio Krishna Centrale possiamo capire che voi siete delle persone particolarmente arrese, anzi direi che siete le persone senz'altro più arrese, che sono disposte ad arrendersi più di chiunque altro a Dio, alla persona suprema, altrimenti non stareste neanche ascoltando la Radio Krishna Centrale, no? Giusto? Non avete capito come mai? E se no non riuscireste neanche a sentire pronunciare il nome di Krishna. Infatti si dice che chiunque ascolta una sola volta il nome di Krishna non è una persona comune, è una persona liberata. Che dire poi se questo nome di Krishna viene ascoltato dalle labbra di un puro devoto? Se voi ascoltate la parola Krishna o il mantra Hare Krishna, il Maha mantra Hare Krishna, allora trarrete un grandissimo beneficio quando questo mantra verrà pronunciato dalle labbra di un puro devoto. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora abbiamo sentito l'importanza di ascoltare il Maha Mantra, il nome di Dio, dalle labbra di un puro devoto. Certamente una persona di questo tipo è molto rara. Ma è molto importante anche ascoltare il Maha Mantra dalle labbra dei devoti in generale. A questo scopo potete venirci a trovare nei nostri centri e fare domande, chiederci molte cose. Questa è anche un'attività che i devoti di Krishna svolgono con molto piacere, rispondere a tutte le domande, naturalmente di carattere spirituale. Naturalmente potete anche scriverci. A sentire adesso un esempio di risposta ad una lettera da uno Special Italia prodotto a Catania. Allora, mentre Manuel Prabhu così ci sta facendo sentire la registrazione che lui ha fatto a Villa Vrindavana nell'ambiente, praticamente, negli ambienti, perché sono poi diversi, che sono appunto quelli che si incontrano, che si gustano, che si vivono, quando si va ad una festa della domenica appunto a Villa Vrindavana, possiamo prendere un attimo tempo per leggere una lettera che ho qui sotto mano, e qui quest'oggi le posizioni sono un po' invertite, no? Manate che gira manopole, slider, registratore di dischi, e io qui seduto, che così con lettere e cose varie. Ecco, leggiamo proprio una lettera che è arrivata non molto tempo fa, del primo agosto, appunto dell'84, una lettera alla quale abbiamo già risposto, e di un certo signor Benedetto Biundo da Cinisi, un paesino vicino a Palermo, precisiamo via Pietro Sbacchi 102, vabbè, insomma, l'indirizzo possiamo, così preciso possiamo lasciar perdere. Il signor Biundo che ci scrive una lettera non molto lunga, però fa alcune domande, le vogliamo leggere tutte. Allora, il signor Biondo ci scrive: è da tempo che sento parlare del vostro movimento religioso La Coscienza di Krishna, senza tuttavia saperne molto su di voi. Due punti. Oggi dunque ho deciso di scrivervi chiedendovi le seguenti informazioni. Qui possiamo prendere alcune domande alle quali magari il nostro Manuel Prabhu può risponderci. La prima è: qual è il vostro credo, o in che cosa credete? Quali sono le vostre pratiche e le vostre cerimonie? Vuole sapere appunto sulle pratiche, cerimonie varie che noi performiamo. Lui sa che così ne abbiamo moltissime, diverse, e che cominciano così subito, prestissimo, già nelle prime ore del mattino. Comunque, qual è la storia della fondazione della vostra religione? Questa è un'altra domanda che ci pone. Quali sono e chi li ha scritti i vostri libri sacri? Quindi li nomina come libri sacri, e ha perfettamente ragione. Continuiamo con la lettera che dice... Che fanno queste? E beh, la Giamaica, d'altra parte, pappagalli e cose varie. La natura, allora, sì, la natura. Il signor Biondo continua, dice: vi prego infine di spedirmi gratuitamente, sottolineato, gratuitamente, e se è possibile, qualcuno o tutti i vostri libri sacri, assieme a dell'altro materiale di informazione, come opuscoli, foto, cassette, eccetera. Ma come gratuito? Infatti, meno male che si riprende adesso, perché dice: se non è possibile avere gratis i libri sacri... Che pretesa, insomma... Cioè, vabbè, che questo... noi vogliamo dare, ma insomma la gente deve capire una cosa, no? Che noi questi libri non ce li regala nessuno, abbiamo dei costi, per questo non accettiamo, sono offerte, però quelle offerte insomma ci devono essere, altrimenti insomma, no? Infatti dice: se non è possibile averli gratis, potete, no, fatemi sapere almeno quanto costano in versione italiana. Beh, certamente, se avevamo la versione siciliana gliela procuravamo. Comunque, Bhagavad Gita in siciliano, E nell'assieme speditemi un catalogo delle vostre pubblicazioni, e questo lo possiamo fare benissimo. Come ultima informazione vorrei sapere se vi sono gruppi della vostra religione vicino a Palermo. Ora chiudo qui la lettera, scusatemi per il disturbo, qui lo diciamo subito che non c'è affatto nessun disturbo. Io desidero conoscervi e mi sto interessando di voi. Venitemi incontro rispondendomi subito, e questo l'abbiamo già fatto. Vi ringrazio di cuore. Ecco, qui aggiunge baci a tutti voi, Benedetto Biundo, e qui allega anche l'indirizzo. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Ecco, abbiamo sentito le domande e adesso andiamo a sentire le risposte in questo Fuori dal Tempo. Infatti, domande eterne, risposte eterne. Tu mi volevi fare delle domande, che poi non è che me le stai facendo tu, ma me le stai facendo il... come si chiama, scusa? Il nostro Benedetto Biondo di... Benedetto Biondo. Ah, Benedetto di nome? Sì. Ah, ho sentito bene questo Benedetto uomo. No, vabbè, allora Benedetto. Sono le varie domande che ci faceva nella lettera. Allora uno per volta possiamo... La prima è: qual è il vostro credo o in che cosa consiste? Quali sono le vostre pratiche e le religiose e le vostre cerimonie? Allora, appunto, noi crediamo in Dio, che Dio è uno e che Dio è uguale per tutti quanti, che non c'è un Dio cristiano, dei maomettani, non c'è un Dio degli indiani, degli indù, ma che Dio è uguale per tutti quanti. Questo è il nostro primo credo. Noi crediamo che Dio sia uno anche, quindi siamo monoteisti, e che tutti gli altri dei, cosiddetti dei, non sono altro che suoi rappresentanti in differenti campi di amministrazione dell'universo, diciamo, no? Quindi quando sui nostri libri leggete di questo essere celeste o di quell'altro semidio, ci riferiamo a posizioni amministrative all'interno di questo universo, così come il re è uno, ma ha differenti ambasciatori in differenti nazioni, quindi in differenti campi, differenti ministri, in differenti campi orizzontali, diciamo, no? Le nostre pratiche sono molteplici, naturalmente. La nostra prima e la più importante è quella, naturalmente, di predicare la coscienza di Krishna attraverso la diffusione del canto del mantra Hare Krishna. Le nostre cerimonie, anche queste, sono molte, ma diciamo che il tutto si può restringere alla pratica più importante, che è appunto il canto del mantra. Allora, la prossima domanda? Sì, qual è la storia? Sono stato esauriente? Sì, vabbè, che poi... In breve, Qui c'era da fare un po' il manifesto della coscienza di Krishna con questa domanda, ci sarebbe stato da parlare veramente, mica uno specialità, ma qualche cinquantina. Comunque, qual è la storia della fondazione della vostra religione? E qui anche... ce n'è da parlare, credo, abbastanza, bisogna ritornare alla storia del mondo, alla storia proprio... degli albori. Ma diciamo che prima di tutto quando si parla di Dio non si può parlare di storia, perché Dio è eterno, quindi anche ciò che lo riguarda è eterno. Quindi quando noi parliamo di filosofia o di conoscenza parliamo anche di eternità necessariamente, proprio perché Dio è eterno, anche la conoscenza che lo riguarda è eterna. Magari non è stata conosciuta per un certo periodo di tempo, ma questo non vuol dire che la conoscenza non esisteva, perché la conoscenza di un oggetto, che sia conosciuto o meno, esiste dal momento stesso in cui l'oggetto viene a esistere. Quindi anche naturalmente la conoscenza di Dio è eterna. Per quanto riguarda quindi la nostra religione, è eternamente esistita, perché la religione è eternamente esistita. Però voglio così sottolineare tre momenti più importanti della storia del nostro movimento, che sono la venuta di Krishna 5.000 anni fa a Vrindavana, nei dintorni di Vrindavana, diciamo a Mathura, è nato a Mathura e poi ha vissuto molti anni della sua vita a Vrindavana e molti anni della sua vita a Dvaraka, sulla parte occidentale della penisola indiana. Secondo momento molto importante della nostra tradizione è l'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu in Bengala, nell'est Bengala. Chaitanya Mahaprabhu ha disseminato il canto del mantra Hare Krishna. Terzo momento, non meno importante degli altri due, è la venuta del nostro maestro spirituale fondatore Srila Prabhupada in Occidente, che è colui che ha fondato l'ISKCON, l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ciò che voi oggigiorno conoscete come Movimento Hare Krishna. C'è un'altra domanda, mi sembra? Varie altre domande. Comunque, quali sono e chi li ha scritti i vostri libri sacri? Allora, quando si parla dei libri sacri, si parla così, si parla di tanti libri, bisogna vedere quali libri. Diciamo che dapprima questi libri sono stati trascritti, ripeto, la conoscenza eterna, ma comunque per libri sacri si intende generalmente i Veda sono stati trascritti dapprima da Vyasadeva, Srila Vyasadeva. E sono stati tradotti in inglese dal nostro maestro spirituale Srila Prabhupada e i suoi discepoli di Prabhupada, ovvero sia noi, stiamo traducendo ora i libri in tutte le lingue del mondo, compreso quella italiana. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Hare Krishna. Ed ora andiamo a sentire che cosa ci dice la nostra Mirabai Devidasi, compagna inseparabile di tutti questi anni di programmi di RKC, che cosa ci deve dire, che cosa ci dice sul canto del Mahamantra. Da uno speciale Italia. Ecco, sentiamo Mirabai. Can only hear your melody. Il mio cuore sente solo la tua melodia. La melodia più bella che ci sia è la melodia del canto dei santi nomi di Dio. Sedici parole potentissime, bellissime, che ci mettono in contatto diretto con Dio, Krishna, la persona suprema. Queste 16 parole sono l'unica melodia, l'unica canzone che vale la pena a cantare. Per tutta una vita. Per crearci una vita cosciente di Dio, una vita bellissima. Infatti, iniziamo questa puntata di specialità ascoltando un'interpretazione di Mahamantra veramente straordinariamente bella. Mente, storia veramente. Infatti, mente, questa è la parola chiave. La Mahamantra ci aiuta a liberarci dalla mente e dalla mente. Adesso ascoltiamo il Mahamantra cantato dal Namahata Band. Ricordate, cantate anche voi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna anche tu. Il Mahamantra. Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Benissimo, eccoci ancora qui in questo viaggio fuori dal tempo. Ci siamo ascoltati le glorie del Santo Nome, ci siamo ascoltati risposte a domande importanti sulla coscienza di Krishna. Fare domande è sempre una cosa molto importante. Fare domande in effetti distingue la forma umana da altre forme viventi. E adesso ci stiamo veramente addentrando in questo viaggio fuori dal tempo. Sembra un gioco di parole, ci stiamo addentrando fuori dal tempo. Certo, l'universo spirituale, il mondo spirituale è al di là di queste convenzioni temporali. I discorsi che si fanno sono assoluti, validi per sempre. E i devoti di Krishna veramente si sono interessati a tutti i settori e ancora si interessano a tutti i settori della vita del nostro mondo. I devoti di Krishna hanno appoggiato e appoggiano ogni manifestazione che sia, diciamo, catalogabile nel discorso della virtù. Perciò anche i discorsi che trattano di ecologia, di natura, di salvaguardia dell'ambiente, protezione degli animali, tutto questo è chiaramente interesse anche dei devoti di Krishna. E a questo proposito andiamo a sentire un'intervista fatta qualche tempo fa da Krishna Chaitanya Das a una manifestazione naturista. Argomento questo che è sempre molto interessante, di attualità. E partiamo allora con questo viaggio dentro l'Euronatura, cominciamo da lì. Mi ricordo che stavamo girando, io e ancora Krishna, proprio per gli stand di questa Euronatura e avvicinandoci qua e là a qualcosa che in qualche modo ci colpiva o ci sembrava interessante. Se non ricordo male, questa intervista di partenza, siamo arrivati verso questo stand perché abbiamo visto dei saponi. I devoti di Krishna, sapete, amano molto la pulizia, non soltanto regolarmente ogni giorno, come dovrebbe perlomeno ogni persona a modo, no? Sono abituati alla mattina molto presto quando si alzano a pulirsi, a lavarsi, a vestire, a fare una doccia, a vestire abiti puliti, ma anche più di una volta al giorno, spesso, ove non sia a volte proprio difficile, più di una volta al giorno usano appunto rinfrescarsi con una doccia. Allora, vedere uno stand di saponi ecologici ci ha fatto venire voglia di fare delle domande riguardo alla pulizia. Abbiamo avvicinato questa ragazza che era dietro lo stand e lei è stata la nostra interlocutrice. Ma sentiamo, Dunque stiamo continuando a girare, qui ci avviciniamo a uno stand che dice Dominioni Como via Ciceri Buste, no, questo forse è lo stand Orion, ecco. Orion è lo stand? Sì. Di dove siete voi? Cassian Fiorentino Arezzo, in Toscana. Ah, in Toscana. Conoscete la Radio Cristo Centrale? No. Vabbè, adesso la conoscete, è una radio che si sente benissimo, Arezzo in Toscana anche. Stiamo girando qui e vogliamo farti qualche domanda su questi saponi. Puoi dirci qualcosa? Come sono? Che caratteristiche hanno questi saponi? Confrontandoli con i saponi che la gente normalmente compra in drogheria o al supermercato. Questi saponi qui sono stati fatti a base di cocco al 100%, senza sego e senza additivi chimici, perciò la saponificazione è solo olio di cocco più estratto vegetale. Ogni estratto vegetale adoperato serve per qualsiasi cura del viso, dalle acne alle rughe, alla pelle grassa e così via, pelle secche, pelle per i neonati. Quanti tipi di sapone fate? Con quanti? Qui vedo carota, germe di grano, pappa reale. 18 tipi ne facciamo. 18 tipi? Sì, anche per lo sport, per gli ospedali, secondo la richiesta. Senti, una domanda devo sapere, ma secondo te la gente si lava o non si lava? Ma parecchi rimangono male quando vedono il sapone, io dovrei lavare col sapone. No, ora c'è tutti i lati detergenti, saponi liquidi, è un po' difficile farglielo comprare. Ma rispetto, secondo te, rispetto a 10 anni fa, la gente si lava di più o di meno? Si lava di meno. Ah, di meno? Allora tutti i bagni che hanno costruito? Sì, ma col sapone si lava di meno, prendono le cavolate chimiche e basta. Non che sono fatte quei cavoli, perché qua vediamo appunto, no, argilla. No, questi no, io dico gli altri chimici, quelli come quello là, insomma, liquidi. Ecco, invitiamo tutti allora a lavarsi di più. Certo. Tu perché non ci vieni a trovare a San Casciano Val di Pesa qualche volta? Dovrei venire. Sei invitata, sì. Allora, fa bene o non fa bene lavarsi, eh? In effetti fa molto bene, perché non è buono tenersi addosso queste cose. Fa bene o non fa bene? Vabbè, d'accordo, noi sposiamo completamente questa tesi. L'invito per tutti gli ascoltatori della Docrescia Centrale è che per un ascolto pulito e una coscienza pulita è necessario, anche se non sufficiente, sia ben chiaro, no? Essere puliti anche esteriormente, anche perché l'abitudine alla pulizia è quanto fa inevitabile la necessità dell'attenzione, ed essere attenti fa bene anche essere attenti fa bene, no? E allora, coltiviamo queste abitudini che fanno bene, appunto. Andando avanti nel nostro Euronatura, di fianco abbiamo visto uno stand che si presentava veramente interessante dal punto di vista dell'ecologia. Noi abbiamo una crescente attenzione anche nella nostra stazione, come del resto è normale e necessario in questi tempi di devastazione naturale, frutto di insensate gestioni dell'ambiente, della natura, da parte di cosiddette persone civili, che dovrebbero essere gli uomini, noi in sostanza. Ecco, l'attenzione all'ecologia è un dovere anche, è un dovere di tutti quanti vogliono fare con un corpo pulito, una mente pulita, una coscienza pulita, anche un ambiente pulito, e tornare a poter vivere quelle possibilità che non sono poi così rare e impossibili, no? Di meritarsi quanto dovrebbe essere di diritto di ognuno, no? La capacità di respirare ossigeno pulito, aria pulita, di avvicinarci al mare quando capita, no? Ad un mare che sia pulito, di avvicinarci alla natura quando capita, in boschi o in campagne che siano pulite, che non siano rovinate da gestioni distratte, insensate e sporche, no? Di certo turismo da picnic. Ecco, noi vogliamo lavorare a educare in modo completo la coscienza delle persone, quindi una persona che sviluppa attenzione all'ambiente sarà anche capace di non usare violenza all'ambiente, e quindi piano piano arriverà con una sua intima convinzione che diventerà a quel punto un'urgenza imprescindibile, a imparare a rispettare la vita degli altri esseri viventi, a rispettare la vita degli animali, a rispettare la vita delle altre persone e quindi a crescere in senso complessivo nella sua esperienza. Ma quindi vediamo senz'altro perché ci siamo fermati a questo stand che produce carta ecologica. Subito di fianco, Dominioni, Como, buste in carta riciclata, prodotti in carta riciclata, per la fabbricazione della carta, ogni anno vengono abbattuti milioni di alberi, tonnellate di prodotti chimici, sbiancanti o altro, sono usati per renderla sempre più bianca, per la fabbricazione si consumano ingenti quantità di energia elettrica e acqua, la distruzione delle foreste, l'inquinamento dell'ambiente, lo spreco di energie e risorse giustificano l'impiego di carte dannose, spesso utili solo per un minuto. Domanda. La carta ecologica è fatta di altra carta, non è sbiancata, viene prodotta con quantità di energia e acqua irrisori. E allora la carta ecologica è molto, molto più bella. Questo, l'hai scritto tu questo? No, no, io non so chi ha fatto il mio capo. Ah, ho capito. Insomma, questa è carta ecologica. Sì. Eh? Esattamente, senza tutto, senza sbiancanti, senza... Sì, sì. E qui si vede anche che per produrre la carta riciclata si vuole solo carta riciclata, cioè vecchi giornali, tipo questo, molto meno acqua e molto meno energia. Perché non leggiamo la tabella, Cristian Cetano? No, materia prima, vediamo di capire. Abbiamo una tabella con 12 spazi su 3 righe. Sulla prima, cioè, le 4 categorie sono materia prima, carta di prima qualità, carta di qualità comune, carta ecologica. Sono delle tabelle comparate. Diciamo che partendo che... Ho bisogno di materie prime per 1000 kg. Per 1000 kg, cioè per arrivare a 1000 kg di carta, partendo dal legno ci vuole per fare una carta di prima qualità 2385 kg di legno. Per fare una carta un po' più scadente di qualità comune ce ne vogliono 1710 kg e partendo dalla carta ecologica ci vuole soltanto la stessa carta, quella che viene riciclata. Giornale di ieri ci vuole. Giornale di ieri, l'altro ieri, le vecchie riviste, i sacchetti di carta. Ecco, guarda che differenza. Vediamo per l'acqua. Per fare una carta di prima qualità 440.000 litri, per invece la carta ecologica 1800 litri. Ecco, e poi di energia per la carta di prima qualità dal legno 7600 kWh, invece la carta ecologica 2700. Quindi è chiaro che c'è un risparmio totale di acqua, di energia, e soprattutto non si abbattono alberi, questa è la sostanza. Non si uccidono esseri viventi. Senti, è uno che vuole dare la carta riciclata per... cioè come funziona questa storia? Cioè la gente la butta nel tombino, la butta nella spazzatura, la brucia la carta, sì. Invece voi dove la prendete? Dove la prendete la carta riciclata? Sì, per... Da riciclare. Sì. No, per adesso purtroppo in Italia c'è nessuno che produce la raccoglie, carta, sì. C'è nessuno che la raccoglie. No, nessuno che produce la carta riciclata, quindi noi importiamo la carta riciclata dalla Germania. Addirittura. Cioè, in Germania la gente quando legge il giornale non lo butta, lo mette via, sì, e a chi lo dà? Si viene la gente... cioè forse ogni due settimane per raccogliere sì, la carta riciclata. Invitiamo anche gli italiani a non buttare giornali, ma se qualcuno volesse invece buttare giornale, metterlo a disposizione perché, i dominioni, ad esempio, perché venisse riciclato, cosa dovrebbe fare? Sì, è così che noi noi siamo una tipografia, noi solo facciamo prodotte con la carta riciclata. Ah, non producete la carta? No, no, però si dovrebbe trovarci qualcuno in Italia che produce. Comincerebbe, non so. E questa carta riciclata può essere riciclata ancora dopo? Sì, si può. Per quante volte si può riciclare la carta per ottenere ancora carta? Oh, questo non lo so, ma mi pare che non c'è un limite per fare, perché per esempio le buste si usa solo una volta e dopo si butta via. Perché... Quindi carta è buona, esatto, no? Sì. C'è gente che della... diciamo, su una busta uno scrive l'indirizzo che ha due righe, tutto il resto della busta è buona. E anche... sarebbe buono che nelle scuole cominciassero a insegnare, sì, ai bambini invece di abbattere, sì, gli alberi, usare la carta, sì, riciclata. Per esempio in Germania, io sono tedesco e lo so che anche i quaderni per i bambini in Germania sono fatti dalla carta riciclata. Sì, ma costa meno a comprarla? Sì, costa meno. Sì, perché come abbiamo già visto che c'è un listino. I costi di produzione sono inferiori. Sì, sì. Senti, allora perché non ci dai un listino a prezzi? Sì. No, perché a volte capita che le cose che logicamente dovrebbero costare meno, perché i costi sono inferiori, costano di più poi alla fine. Non è così per questa carta? Sì, certamente. Per adesso purtroppo è così. Costano di più? Costa di più della carta normale? No, perché... La carta, voglio dire, che è dal legno. Se noi, siccome noi dobbiamo comprarla in Germania e ci sono tutti i costi di portarla... Beh, ma quanto qui viene a costare? Non so, una... Parliamo un po' dei prezzi, ad esempio. Questo block notice qui che costa 2008, sì. Fuori quanto costa? In un'altra cartoleria, per dire. Cioè uno fatto con carta normale. Beh, questi costano mediamente forse un po' più cari adesso della carta tradizionale, perché sì, sono dei problemi di approvvigionamento, sì, di produzione, di quantità. Per esempio a noi costano 500 foglie di carta riciclata, costano 5.700 lire. La carta... Allora, qui noi vediamo che questo è un fenomeno che a volte riscontriamo, che può sembrare anche bizzarro, che i prodotti ecologici, quelli che non sono lavorati, a volte risultano essere poi più cari di altri che sono lavorati con processi di raffinazione più complessi. E questo apparentemente è assurdo, perché per fare di meno costa di più. Però bisogna anche capire che non è proprio così, è semplicemente assurdo, perché non è facile stabilire questo tipo di attenzione, neanche questo tipo di mercato in termini commerciali, quindi è evidente che difficoltà di approvvigionamento, di lavorazione, di immagine, di mercato, di veicolazione fanno diventare poi queste cose addirittura più care. È il caso, dicevamo altre volte, anche delle culture integrali, del riso integrale, delle farine integrali, del pane integrale, dei biscotti integrali, cose che partendo da materia prima semigrezza o non lavorata dovrebbero costare meno, invece alla fine costano di più. Costano di più, ma valgono di più anche, questo è in sostanza il discorso, come vale di più generalmente tutto quello che richiede sacrificio. Dal punto di vista spirituale, anche se potrebbe sembrare così leggero e facile il salto per corrispondenza, è vero che il sacrificio è un punto irreale, imprescindibile, perché dove c'è capacità di sacrificio c'è grande volontà espressa. Nessuno, non è facile, non è difficile per nessuno muoversi a fare cose facili e attraenti. È più difficile muoversi a fare cose difficili. Per fare cose difficili bisogna avere desideri e volontà. Questo desiderio e questa volontà educano la persona a crescere in se stesso una forza specifica, che quando poi sarà finalmente, prima o poi nell'esistenza, girata verso il guadagnare conoscenza, produrrà senz'altro effetti grandemente positivi. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Fuori dal tempo. Interessante, veramente interessante. In effetti è proprio così. Le cose belle, le cose buone, le cose di qualità costano sempre un po' di più. È vero, è come i prodotti integrali, i macrobiotici, eccetera, eccetera, hanno effettivamente un valore nutritivo molto più elevato, quindi a volte sembra che comprare, che so, una pasta bianca, sbiancata come la carta, ci sia effettivamente un risparmio, ma in realtà noi vediamo che per avere lo stesso nutrimento magari bisognerebbe, non so, mangiarne il doppio o il triplo, e poi comunque non è comunque la stessa cosa. È proprio così, come diceva anche Krishna Chaitanya Das, anche nella vita spirituale si ritrova, si può fare lo stesso discorso, c'è effettivamente una certa analogia. Si deve fare un po' di sacrificio, ma il risultato che se ne ricava è una felicità veramente molto grande, una felicità assoluta. Magari per avere gratificazione dei sensi nel mondo materiale, apparentemente sembra che ci costi meno fatica, ma questa felicità è come minimo temporanea ed è un'illusione, è un'illusione. Però bisogna dire che com'è vero che nella vita spirituale, una volta che c'è questo periodo, diciamo, iniziale dove costa sacrificio e dove aumenta sempre di più questo gusto superiore, poi viene il tempo in cui tutto è molto più facile, e anzi diciamo che viene solo la felicità, la conoscenza, la vita eterna, quindi tutta la positività si manifesta senza più bisogno di sacrificio alcuno. Quindi ci auguriamo anche che nel settore così alimentare e ecologico in generale avvenga la stessa cosa, e man mano che i tempi maturano in questo senso, che le mentalità maturano, alla fine si venga a trovare, veniamo a trovare in un periodo dove queste cose saranno molto più semplici, molto più a buon mercato, come si dice. Naturalmente questo dipende dalla diffusione di questi soggetti, di questi prodotti. Benissimo, ma continuiamo a sentire. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Una canzone che si chiama Ti piacerebbe. Ti piacerebbe avere una vita senza dolore, una bella realtà piena di felicità. Non vorresti dimenticare i problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze. Ti piacerebbe. Precipitati in questo mondo materiale. Vi piacerebbe, ci piacerebbe, ti piacerebbe, molti modi di esprimere è così un concetto che prelude al voler raggiungere qualcosa che sembra invece molto difficile da raggiungere, ma in realtà avete sentito anche nelle parole della canzone, tutto è possibile, basta, come dicono le parole, ricordare la nostra posizione originale, cioè di anime, spirituali e precipitate in questo mondo materiale. Questo precipitare ci ha fatto, perché scendevamo sempre più giù, ci ha fatto dimenticare chiaramente la nostra origine, e quindi questo ha dato il via a una serie di reazioni a catena che ci hanno fatto assolutamente poi alla fine dimenticare completamente addirittura la nostra origine, il nostro vero essere, i nostri rapporti con gli altri, il nostro rapporto con Dio. Assolutamente poi siamo arrivati addirittura a pensare che Dio non esiste, ma che non solo non esiste, ma che in realtà siamo noi Dio, siamo noi, è di queste persone che pensano di essere Dio, ce ne sono tanti veramente, però molte di queste persone sono attaccate a tanti aspetti della loro dimensione estetica materiale che proprio danno chiaramente l'idea del limite della loro visione, perché in effetti uno che pensa di essere Dio deve essere pazzo. La pazzia è un qualcosa che arriva inevitabilmente dopo che uno è costantemente sottoposto a una pressione di condizionamenti costanti, appunto, da parte dell'energia materiale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se uno continua costantemente a vivere questa esperienza così di non conoscenza, proprio perché l'energia materiale è così transitoria, così duale, così effimera, e tutto quello che ottiene è la voglia di ottenere qualcos'altro. In realtà non riesce mai a ottenere quello che lui vorrebbe veramente, anche perché l'energia materiale non può darglielo. E quindi da qui nascono i traumi, si parlava in qualche altra trasmissione della depressione, gli psicopatici, ci sono veramente molte forme così di malattie che danno veramente l'idea di quella che è l'effetto, di quello che è l'effetto che ha l'energia materiale, questo continuo, questa pressione continua di queste tre energie pilota fondamentali che sono che naturalmente formano il centro, il nucleo dell'energia materiale, che sono appunto la virtù, l'ignoranza e la passione. E attraverso la pressione di queste tre energie l'elemento condizionato, l'anima condizionata, naturalmente vive un'esperienza allucinante. È così allucinante, pensate bene, è così allucinante che anche quando pensa di star bene non si rende conto che in realtà la sua felicità non è altro che una momentanea cessazione della paranoia, dell'infelicità. È incredibile, E com'è possibile? Io mi sento bene, sto bene. Sì, però capite, il problema è questo. È come quello uno che dice, io ho sete nel deserto, no? Una grande sete, e pensa all'acqua. questo pensare all'acqua, che è l'elemento, l'unico elemento che può dargli la sete in quel momento, non è che allevia la sete, anzi, in realtà lo accresce di più. Però una cosa è certa, che nel deserto l'acqua non c'è. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo, sì, dentro di noi questa voglia di essere felici e conosciamo l'aspetto reale della felicità perché l'abbiamo vissuta. Però l'abbiamo vissuta naturalmente non in questa dimensione materiale, ma quando eravamo insieme a Krishna nel mondo spirituale. Però adesso, siccome non siamo più nel mondo spirituale, mi sembra chiaro questo, la vita di oggi non è certo, non ha niente di spirituale, stiamo cercando qualcosa che in effetti questa dimensione non può darci. E quindi da qui c'è l'origine proprio della paranoia, l'origine della insoddisfazione costante. Quindi noi diciamo sempre, cari signori, cari amici, voi che ascoltate RKC, Radio Krishna Centrale, cercate di capire questo piccolo concetto che è importante. La felicità in questo mondo materiale non esiste, a meno che voi non vi mettiate subito in contatto con i rappresentanti di Dio, Krishna, la persona suprema. Attraverso le istruzioni dei maestri spirituali, uno può ritrovare la sua dimensione perduta e vivere così una vita serena, anche all'interno di questo gioco materiale, una vita serena che lo porterà senz'altro a ritrovare se stesso e in ultima analisi poi nel momento importante, quando ci sarà il passaggio da questa dimensione a un'altra dimensione, si tornerà tutti nel mondo spirituale e così potremo rivivere in pieno proprio questa esperienza di felicità, eternità e conoscenza. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Abbiamo sentito una spiegazione piuttosto esaudiente sulla nostra condizione in questo mondo materiale che ci è stata data da Krishna Prema Das. Avete sentito anche la canzone all'inizio e ti piacerebbe avere una vita senza dolore? A chi non piacerebbe, Per fare questo, si può cominciare intanto dalle piccole cose, tra le quali i devoti di Krishna consigliano di seguire i principi regolatori. Principi regolatori che sono quattro, a cominciarli a inserirli almeno nella nostra mentalità e poi anche nella nostra vita magari. Questi principi regolatori sono essere vegetariani, cioè non mangiare né carne, né uova, né pesce, non prendere nessun tipo di intossicante, non fare alcuna attività sessuale illecita e nemmeno speculazione mentale o gioco d'azzardo. A proposito del secondo principio regolatore, cioè non prendere intossicanti, si può cominciare anche dalle cose più semplici, come ad esempio non fumare, fumare fa veramente molto male. con questo spezzone di uno speciale Italia di Praladesh Das sentiremo anche dei buoni motivi per smettere di fumare. Allora entriamo nel vivo del programma di oggi con una informazione dalla cronaca mondana. In effetti il giornale che ha sotto mano, sì, è mondano, però è di una mondanità non così grave, no? In un certo senso, anche se si basa su un errato concetto che noi siamo questo corpo, è un giornale che ha degli intenti, diciamo così, come dire, umanitari, no? E infatti è un, lo dice qua, il sottotitolo mensile di educazione sanitaria, vale dire è una rivista che esce una volta al mese e parla di problemi del corpo, no? Delle malattie, tutte queste cose qua, no? Ora noi personalmente, noi devoti di Krishna sappiamo che questo tipo di giornali sono giornali che hanno una profonda coscienza corporea, no? Cosa che invece noi vogliamo evitare, vale a dire ognuno di noi ha una coscienza corporea, però noi non vogliamo far sì che la coscienza corporea diventi la cosa più importante, perché in effetti non lo è, la coscienza più importante è la coscienza spirituale. Comunque questi giornali qua in un certo senso, diciamo così, qualche cosa di buono lo fanno. Per esempio appunto l'articolo che ho trovato oggi è un articolo che è decisamente contro l'uso delle sigarette. Adesso tutti voi ascoltatori di RKC che ancora avete questo vizietino di fumare, che tra l'altro è un vizietino serio, no? Perché c'ha anche un nome, si chiama tabagismo, vale dire l'uso di tabacco, di sigarette, si chiama tabagismo. Quindi tutti voi che state fumando, che fumate, che siete soliti fumare, anche magari una sola sigaretta al giorno, siete affetti da tabagismo o vittime del tabagismo. Ora questo è un articolo che prende in esame una prima parte, diciamo così, numerica, no? Fa vedere dei dati su quanti sono i fumatori in Italia, eccetera, poi passa a descrivere la mortalità e i vari casi e poi anche quali sono tutti i bersagli che ci sono nel corpo da parte delle sostanze contenute nelle sigarette. Ora, naturalmente io non voglio dilungarmi troppo perché intanto i danni del fumo bene o male li sapete tutti, no? Però mentre leggevo questo articolo mi è venuta alla luce una cosa abbastanza così seria, no? Cioè un aspetto abbastanza serio, forse è l'aspetto più serio di tutta la questione del fatto che la gente fuma le sigarette. Ho premesso, se qualcuno vi domanderà, ma perché i devoti di Krishna dicono che non si devono fumare le sigarette? Innanzitutto la sigaretta contiene delle sostanze intossicanti. Gli intossicanti hanno la proprietà di modificare la nostra natura, la nostra cioè quello che noi veramente siamo, e ci spingono a pensare che noi siamo qualcosa di diverso. Oltretutto poi gli intossicanti sono sostanze che come risultato danno una grande come dire, una grande identificazione con il corpo materiale. Perché appunto sono sostanze che si prendono proprio per goderne attraverso i sensi di questo corpo. E fondamentalmente poi reputiamo l'uso degli intossicanti, quindi anche del tabacco, una cosa essenzialmente inutile, perché non dà nessun beneficio al corpo, no? Proprio nessuno, e semmai invece è solamente qualcosa di contrario alla salute e anche in un certo senso all'economia di ogni persona, cioè al borsellino. Infatti è un vizio molto costoso. Tanto intanto qua quando viene qualcuno che fuma, no? Così per mettere un po' a disagio, non è che vogliamo mettere a disagio, però per fargli vedere, no? Farlo meditare un attimino su quanto è assurdo fumare, gli chiediamo quanto costano le sigarette. Recentemente ho scoperto che le sigarette, adesso c'è un pacchetto di Marlboro, che è una marca abbastanza famosa, molto usata, costano 2000 lire al pacchetto. Quindi come minimo una persona un pacchetto al giorno se lo fuma, Quindi sono 2000 lire, 2000 per 2 per 7, 21, sono 21.000 lire alla settimana, per 4, 2 per 4 sono 84.000 lire al mese, per 10 mesi sono già 840.000, insomma praticamente siamo quasi sul milione l'anno, ecco. Ecco, questi sono applausi perché in effetti qualcuno ha capito che queste cose che abbiamo appena detto sono veramente valide. Comunque andiamo avanti. Un attimo di silenzio per meditare su le nostre cattive abitudini, quelle di fumare, non nostre dei devoti, ma dico vostre, le nostre in generale, per non farvi sentire troppo soli, e andiamo avanti. Quindi dicevo, si spende quasi 1 milione di lire per persona, circa, no? Quelli che fumano all'anno. Un milione si può, oddio, 1 milione adesso al giorno d'oggi non vale proprio una cicca, no? 1 milione proprio non è nulla al giorno d'oggi, perché è quell'inflazione che sale, però insomma si può sempre fare qualche cosa con 1 milione, no? Poi se consideriamo anche il danno fisico, allora poi decisamente è molto, ma molto di più di 1 milione che si butta via. In ogni caso andiamo avanti e vediamo un po' cosa dice questo articolo. Allora, ci sono 2 o 3 cose che quasi sembrano delle definizioni che vorrei leggere, che sono simpatiche, poi passiamo alla parte numerica. Senti cosa dice qua, dice: la sigaretta è stata definita uno dei più efficaci strumenti di morte che l'uomo abbia inventato per scopi pacifici, e ciò è dimostrato dal preoccupante quoziente di mortalità tra fumatori rispetto ai non fumatori. Ecco, guarda, proprio a farlo apposta, questo qua, la prima parola che ha detto dopo il suo acuto è stato smoke, vuol dire fumo. Evidentemente questa canzone qua si riferisce un po' a quegli ambienti fumosi, così, no, dove si pratica un po' di musica, si fa danza, eccetera, cose di questo genere. Andiamo avanti, dice: il mito della sigaretta è inattaccabile, la bianca, slanciata, elegante, calda sigaretta trova estimatori di tutte le età e di entrambi i sessi. Infatti questo ci fa ricordare che il fumare è un vizio, cioè la situazione è più psicologica che fisica, perché in effetti quando uno smette di fumare proprio decisamente, sì, magari lì per lì non è che il suo fisico, che è così abituato, si è fatto la nicotina, ci avrà qualche problemino, ma proprio roba irrisoria, confronto invece a quelli che saranno i problemi psicologici, cioè della mente, no? Che si rifiuterà di non avere più quel sostegno basato su questo tubicino di carta con dentro un po' di paglia, un po' di tabacco, foglie secche, insomma. Ecco, però andando avanti, leggiamo un'altra cosa interessante, sempre per i fumatori, li avvertiamo che secondo le statistiche eccetera, ogni sigaretta fumata accorcia la vita di ben 14 minuti, Mi ricordo che anni fa si diceva che una sigaretta accorciava la vita di 5 minuti, Invece adesso hanno scoperto che è aumentata la brevità della vita, cioè vale a dire la sigaretta toglie più minuti, no? Quindi 14 minuti vuol dire che su un pacchetto di 20 sigarette si toglie sui 300 minuti, siamo oltre le 4 ore di vita, no? 4 ore di vita si può sempre diventare cosciente di Krishna, no? Comunque andiamo avanti, dice che per lo Stato, e questa è la cosa che mi ha colpito, per lo Stato è un grande business. Allora vediamo un po' i numeri. Dice: in Italia i fumatori abituali sono oltre 16 milioni e sono il 35% della popolazione, con netta prevalenza degli uomini sulle donne, 54,3% degli uomini contro il 16,7% delle donne. Se non altro vediamo che le donne sono un pochino più virtuose, hanno capito un pochino di più che non ha senso fumare. I fumatori occasionali e gli ex fumatori sono poco più del 5% della popolazione, vale a dire circa 2 milioni e mezzo di persone. La media delle sigarette fumate è molto alta, 16 al giorno pro capite, con una sensibile differenza uomini e donne, 17 gli uomini e 11 le donne. Questi sono i numeri che misurano la sofferenza di tutti coloro che hanno questo vizio, no? Questa cattiva abitudine. Un dato preoccupante è costituito dal numero dei fumatori di età fra i 14 e i 19 anni, quindi giovani nell'adolescenza. No? 16,6% sono appunto i fumatori tra i 14 e i 19 anni, dei quali il 23,3% maschi e il 9,7% femmine. Con un consumo medio, ascoltate bene, di 11 sigarette al giorno. In un'altra percentuale di casi questi ragazzi si avvicinano al fumo in età ancora più precoce, tra gli 11 e i 14 anni. Sono sicuro che tutti voi che fumate, che avete ancora questo vizio di fumare, se vi ricordate quando è che avete iniziato a fumare, vi ricordate che avete iniziato quando eravate molto giovani, eh? Magari appunto avete iniziato perché vedevate che i vostri genitori oppure le persone importanti o le persone che ammiravate fumavano, allora avete cominciato a pensare che il fumare desse un quel tocco di essere adulti, no? di essere maturi, di maturità, no? Che ci voleva proprio nella vostra personalità di giovani così agli albori della vita, insomma. Qui se continua il pianto del fumatore, sentite di sottofondo. Piange perché non riesce a smettere, ma comunque noi sappiamo che se lui canta Hare Krishna il metodo c'è, dopo ve lo spiego, eh? Allora, il ruolo della famiglia, dice appunto, è fondamentale, dato che più dei due terzi dei figli di fumatori fumano a loro volta, contro un terzo dei figli di non fumatori. Cioè, quindi sono più propensi i giovani che hanno i genitori che fumano a prendere il vizio del fumo piuttosto che quelli che hanno genitori che non fumano. È evidente che bene o male i genitori un po' di cose buone le possono sempre insegnare, cioè un po' di ascendente sui figli ce l'hanno, quindi se non fumano sicuramente quando vedono il figlio che fuma gli diranno quattro, no? Comunque ecco arrivati al punto che interessa. Un fenomeno di così vasta portata quale il tabagismo è necessariamente associato a un aspetto economico, che nel caso specifico ha assunto dimensioni notevolissime. Infatti il mercato del fumo del nostro paese supera, ascoltate bene, studiatevi le orecchie, supera i 4.500 miliardi di lire italiane, naturalmente, con un incremento annuo valutabile attorno al 10-15%, vuol dire che ogni anno questa cifra aumenta del 10-15%, cioè il giro d'affari del tabacco, delle sigarette, del tabacco, diciamo così, in Italia ha questa cifra, 4.500 miliardi, Allora, poi dice, lo Stato italiano produce tabacco in monopolio, ricavandone un enorme utile, evidentemente se abbiamo appena letto che c'è un giro d'affari di 4.500 miliardi, il mercato del fumo muove così tanti soldi, così tanto denaro, possiamo immaginarci quanto si intasca lo Stato. Qui dice appunto che nel 1979, molti anni fa quindi, cioè non è almeno 5 anni fa, tra imposte di fabbricazione e IVA sono stati riversati nelle casse statali 2.225 miliardi di lire. E aggiunge, e vi sono tutte le ragioni per ritenere che attualmente non siamo lontani dai 3.500 miliardi. Poi dice, un bell'affare. Certo che praticamente lo Stato ha ogni anno un guadagno netto, perché lo Stato non deve pagare le tasse evidentemente, di 3.500 miliardi, vabbè, poi ci saranno le spese, varie, gli stipendi degli operai che fabbricano le sigarette, cosucce, no? Sicuramente una bella fettona di questa cifra va nelle casse dello Stato, no? Ora, voi direte voi, vabbè, insomma, questo lo sappiamo tutti, no? Ma quello che mi ha colpito a me, cioè, personalmente, è vedere, cioè, così manifestamente, come quanto lo Stato guadagna su un'attività che è deleteria per i suoi cittadini. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Lo Stato attuale dà molte tasse al pubblico, no? Cioè ogni anno le tasse aumentano e ogni anno i cittadini si sentono portati ad odiare lo Stato perché gli rende sempre più difficile la vita, no? Cioè continua a esimere tasse e la vita la costa sempre di più, cioè mangiare costa sempre di più, eccetera. Però appunto ha un metodo lo Stato attuale, adesso non sto parlando solo dell'Italia, parlo di tutti i governi che ci sono in questo mondo. Qual è il loro metodo? Aumentano le tasse, ma dall'altra parte danno gratificazione dei sensi sempre di più. Ripeto per chi non avesse capito bene. Lo Stato, evidentemente uno Stato irreligioso, no? Cosa fa? Aumenta le tasse per mantenere diciamo così, tutti gli stipendiati, tutte l'inflazione insomma, che c'è in questo momento, però contemporaneamente per evitare che il cittadino diventi troppo arrabbiato e contrariato del comportamento di questo governo, cosa fa? Dall'altra parte aumenta sempre di più la gratificazione dei sensi, la rende sempre più facilmente usabile, no? Prendibile dal cittadino in generale. Così appunto vediamo che per esempio negli ultimi anni la pornografia è aumentata a dismisura. Io mi ricordo quando ero bambino non esistevano giornali pornografici nell'edicola, non esistevano proprio. Ecco, mi ricordo che forse c'era Diabolik, che era uno dei giornali più spinti che esistevano allora. Adesso invece ci sono delle cose allucinanti proprio, no? E pensate che i giornalai, cioè i negozi di giornali, queste cose poi le espongono, e poi pensate anche che tutti i vostri figli, quando magari tornano a scuola, a casa, passano davanti al giornalaio a vedere un po' a pigliare le bustine di figurine e poi magari lanciano anche un'occhiatina di qua e di là e vedono queste cose che naturalmente restano impresse nella loro mente, anche perché poi naturalmente la società così com'è non è in grado di informare nella maniera corretta i giovani di queste cose, per cui potete immaginare che caos gli crea nella mente e così via. Quindi come vedete, appunto, si diceva, il discorso di prima era questo, no? Che lo Stato aumenta le tasse, però dall'altra parte cosa deve fare? Deve dare la gratificazione dei sensi, no? Ora, riguardo appunto al nostro argomento qua del tabagismo, vediamo che lo Stato dà una gratificazione dei sensi che è nociva, perché noi lo sappiamo molto chiaramente, devoti di Krishna, ogni tipo di gratificazione dei sensi è nociva. C'è un tipo di gratificazione dei sensi che non è nociva ed è la gratificazione dei sensi regolata secondo le istruzioni delle scritture vediche, degli Shastra. Però nelle scritture vediche non c'è assolutamente detto che uno possa fumare anche in modo regolato. Anche quindi fumare una sigaretta al giorno non è una cosa che è stabilita dalle scritture vediche, quindi è assolutamente fuori legge, in un certo senso, fuori legge naturale, per cui crea delle reazioni pesanti e negative che sono appunto questo, reazioni sulla salute dell'uomo. Infatti appunto qui parlava di aumento delle morti di coloro che fumano, cancro al polmone, malattie di ogni genere, anche al pancreas, ogni organo, i reni, persino molti organi vengono colpiti da questa cattiva abitudine di fumare le sigarette. Dicevo, non solo, potremmo quasi dire, no? Non solo c'è il danno fisico, ma c'è anche la beffa. Lo Stato, e con questo dico non solamente l'Italia, perché evidentemente qui ce ne sono le cifre italiane, ma questo avviene dappertutto, no? Pensate quante sigarette si fumano in America, quindi pensate quante sigarette si fumano in Russia, quante sigarette si fumano anche in India. In ogni Stato si fuma un sacco di sigarette, perché è un vizio molto diffuso. E appunto lo Stato non è che si senta responsabile, no? E quindi non dico dichiarare fuori legge l'uso del fumo, ma almeno non produrlo lui, no? Cioè almeno lo Stato non si mette a produrre il tabacco e poi lo venda ai cittadini per farli star male, no? Dico almeno quello, no? Invece no, neanche quello, proprio lo Stato produce e vende questa droga, questa sostanza, questo veleno, questo cocktail di veleni, che in effetti è la sigaretta, perché ce ne sono tanti di veleni, e lo vende proprio al cittadino. Allora, pensando a questo, mi è venuto in mente che nei Veda, e nella fattispecie nello Srimad Bhagavatam, io ho letto molti tempo fa, quando leggevo, molti punti interessanti che descrivono come dovrebbe essere un capo di Stato ideale o un governo ideale, no? Naturalmente nella cultura vedica il capo di Stato era il re, quindi era una persona sola. Una persona sola che veniva, generalmente prendeva, diciamo così, il potere dalla nascita, no? Cioè era figlio di un re e quindi riceveva il potere dal re direttamente. Però comunque, quando era bambino, il padre curava molto l'educazione di questo futuro re. E infatti questo re doveva essere educato in una maniera molto accurata, in modo tale che poi fosse veramente in grado di portare a compimento il suo dovere di essere appunto un capo di Stato veramente efficiente, esperto, capace di fare il bene dei suoi sudditi. Allora io ho preso qua alcuni appunti dallo Srimad Bhagavatam, primo canto. Ecco, però aspetta, non è questo qua il libro, eccolo là, un attimo che mi allungo con la mano, Ecco qua, allora, dicevo, ho trovato degli appunti interessanti su come avrebbero dovuto essere i capi di Stato. Allora, ascoltate un attimino, Allora, il Raja Dharma, o l'attività prammatica dei re, è una scienza elevata, ben diversa dalle tecniche e dai metodi usati dai nostri politici nella loro sete di potere. I re ricevevano un'educazione sistematica diretta a formare uomini generosi e non semplici collettori di imposte. Imparavano anche a digiunare e a compiere sacrifici per accrescere la prosperità dei loro cittadini e avevano la grande responsabilità di condurre alla salvezza tutti i praja, gli abitanti del regno. Questo concetto adesso Srila Prabhupada lo esprime meglio dicendo: un padre, un maestro spirituale e un re non devono mai dimenticare che hanno la responsabilità di condurre i loro subordinati alla liberazione ultima, alla libertà da nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quando il re adempie bene i suoi doveri primari, nessuno sente il bisogno di un governo popolare esercitato dal popolo per il popolo. Ma oggi, per lo più, i dirigenti ottengono il loro posto a forza di pubblicità o mediante elezioni truccate, senza preoccuparsi mai di imparare a svolgere i doveri fondamentali di un re, cosa che non è d'altronde alla portata di tutti. Così i nostri dirigenti incompetenti mettono tutto sottosopra col pretesto di soddisfare anche i minimi desideri dei loro cittadini, ma allo stesso tempo scivolano verso la disonestà e la truffa, aumentando continuamente le tasse per finanziare un'amministrazione male equilibrata e in fondo totalmente inutile. Tutto quello che dicevo prima, no? Cioè fanno di tutto per soddisfare i desideri dei loro cittadini, ma al tempo stesso aumentano continuamente le tasse per finanziare l'amministrazione, eccetera, eccetera. Allora, andiamo un attimino avanti, sentiamo cosa dice ancora Srila Prabhupada. Per agire correttamente, il re deve consultarsi con i brahmana qualificati, cioè i brahmana, la classe intellettuale della società, che sulla base degli insegnamenti delle scritture, come la Manu Samhita e il Dharma Shastra di Parasharamuni, devono a loro volta guidarlo adeguatamente nell'esercizio della sua amministrazione. Di solito il popolo considera il re come un modello da seguire, cosicché se il re è pio, virtuoso, coraggioso e generoso, la maggior parte dei sudditi si sforzerà di essere altrettanto, completamente all'opposto di un sensuale parassita che vive alle spalle dei suoi sudditi. Questo re è sempre allerta, pronto a condannare ladri e briganti. Ai tempi vedici il re non mostrava mai alcuna pietà per i malfattori e non risparmiava loro la vita invocando principi della non violenza, ahimsa, principi che in questo caso sono assurdi e ingiustificati. I briganti e ladri ricevevano un castigo esemplare, tanto che in seguito nessuno osava commettere le stesse malvagità e naturalmente mai questi malfattori avrebbero occupato posti amministrativi come accade oggi. Sì, in effetti la maggior parte della gente è convinta che al governo ci siano delle persone inqualificate. Qualcuno magari la pensa un pochino più pesantemente, ma ci sono molte riviste che proprio sono specializzate in questo tipo di cronaca relativa alla vita politica qui in Italia, poi nel resto del mondo, no? E hanno sempre la tendenza a mostrare come questi uomini politici siano un po' degli imbroglioni, no? Naturalmente noi devoti di Cristo sappiamo che non è colpa loro. Se loro agiscono così è semplicemente dovuto al fatto che siamo in Kali Yuga, no? In Kali Yuga cosa succede? Succede che Mleccha Rajani Rupina, succede che delle persone inqualificate si vestiranno come re o come capi di Stato e agiranno appunto come re o come capi di Stato, non essendo minimamente qualificati, e per questo naturalmente lo Stato stesso comincerà a degenerare sempre di più fino a che poi non ci sarà più nulla di buono, no? Come appunto vediamo riferendoci appunto all'articolo che leggevamo poc'anzi, no? Poi succede appunto che lo Stato in generale cosa fa? Arriva a spingere la gente a fare delle attività, o addirittura fornisce, vende al popolo, ai cittadini, delle sostanze che sono nocive per la salute dei cittadini, e ciononostante ci fa un grosso guadagno. E possiamo anche immaginarci che chiunque, qualunque Stato mondiale, faccia un grosso guadagno sull'uso delle sigarette, del tabacco, e che quindi se per caso questo uso di sigarette e di tabacco fosse decisamente, improvvisamente, immediatamente eliminato, ci sarebbe un grosso deficit, no? Perché lo Stato si troverebbe improvvisamente ad avere una grossa fetta delle sue entrate in meno, no? Per cui ci sarebbero grossi problemi. Quindi, come vedete, potete meditare anche voi sulla assurdità della situazione, eh? Cioè lo Stato che, secondo la cultura vedica, come abbiamo appena letto, anche se magari non c'è un solo capo di Stato, ma almeno lo Stato, il governo, dovrebbe provvedere al benessere dei suoi cittadini, non solo fisico, perché fisico è evidente, no? Ma soprattutto spirituale. Adesso non solo non provvede al benessere spirituale, ma addirittura mina il benessere fisico dei cittadini, e in più ci fa pure un guadagno sopra. Quindi questo è proprio il massimo, eh? Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Benissimo, come avete sentito in questo programma, Fuori dal Tempo, non abbiamo limitazioni né di tempo e né di spazio e nemmeno di argomenti. Infatti dall'argomento fumo e di quanto nocivo è fumare, l'abbiamo sentito bene, siamo passati a come deve essere lo Stato, come deve essere un buon governo, e in questo campo i Veda, le antiche scritture, hanno veramente qualcosa di fondamentale da dire. Infatti le notizie su come deve essere un buon governo, su come deve essere un buon Stato, che vengono dai tempi vedici, sono validissime tuttora. E sarebbe veramente auspicabile che presto si venissero adottate in tutto il mondo. Benissimo, il discorso era magari un po' veramente un po' serio, com'è effettivamente serio sia il discorso del fumare e degli intossicanti in genere, sia il discorso di un buon governo per quanto riguarda la salute spirituale, fisica, ma soprattutto spirituale di tutte le persone. E dopo un discorso così serio, andiamo a sentirci qualcosa di simpatico, ma non naturalmente meno serio, che ci è presentato da Krishna Chaitanya Das. No, ma qui il discorso nasce dalla luce che si è spenta, dal buio. Quando parliamo di conoscenza parliamo spesso di luce e quando parliamo di ignoranza parliamo spesso di buio. E non molte volte forse abbiamo ricordato un particolare modo con cui i devoti sono abituati a rivolgersi al loro maestro spirituale, come soprattutto chi ha saputo aprire gli occhi a una visione diversa, spirituale, trascendentale, cacciando appunto le tenebre dell'ignoranza. E loro qui cantavano senza luce e manifestavano più o meno coscientemente il disagio del sentirsi al buio e ignoranti. La strada è il viaggio della persona e la solitudine nasce sempre comunque anche da questa ignoranza, perché la persona che si sente insieme ad altri in un viaggio di ricerca è appunto insieme ad altri, non è mai solo veramente. Allora noi ci rivolgiamo al maestro spirituale dicendo che siamo nati nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma appunto lui, il maestro spirituale, ci ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza ed è per questo che noi siamo abituati ad offrire al maestro spirituale con grande rispetto e venerazione il nostro omaggio, ringraziamento. Non dire una parola. Vabbè, invece insomma spesso è utile parlare anche, no? Ti darò quello che vuoi. Quello che vuoi è l'eternità, la felicità, la conoscenza. E chi può parlare in questi termini dicendo io ti darò quello che vuoi è chi ha organizzato la realtà con leggi precise che muovono dietro ai desideri e la volontà le reazioni che si chiamano karma. Quindi questo io che parla in prima persona non può essere altri che Krishna, Dio, la persona suprema. È un senso di amicizia, è l'amico supremo. Non c'è difficoltà, Krishna abita nel cuore delle persone e viaggia sempre dove la persona è, di fianco. Ci sono anche naturalmente queste immagini, chiamiamole diffrazioni, e quando la luce si riflette c'è una specie di distorsione armonica, se parlassimo di suoni sarebbero distorsioni armoniche, quando si parla di ottica sono diffrazioni, che sono rifrazioni così di rimbalzo, per cui cercando il viso più bello e la persona più cara, più da amare, più affascinante, queste diffrazioni ci portano con un errore di rotta, come se fossimo dei navigatori che sbagliano la direzione, a puntare su una bellezza effimera che finisce, su una relazione che può anche dare qualche momento di soddisfazione, ma che non saprà mai conquistare il senso e la misura dell'eternità, e senza sapere che l'amore che cerchiamo e la persona che cerchiamo e il fascino che cerchiamo di essere capaci di subire in modo completo e totale è sempre e solo quello di Dio, la persona suprema. Shri Krishna. L'infinitamente affascinante. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Fuori dal tempo. così siamo quasi arrivati al termine del nostro tempo. Anche se siamo fuori dal tempo, eh? A proposito di ancora di Prasada, cosa significa Prasada? Prasada è cibo offerto a Krishna, letteralmente misericordia. Certamente, perché i devoti di Krishna non mangiano né carne né uova né pesce, come si diceva prima, e essendo strettamente vegetariani, in questo modo possono offrire il loro cibo a Krishna. Certamente, perché Krishna, Dio, la persona suprema, come lui stesso ha detto, se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua. Quindi sappiamo bene qual è il cibo che Krishna, Dio, la persona suprema, accetta. E in questo modo libero questo cibo da ogni attività peccaminosa e diventa misericordia. E come dicevo, andiamo a sentire da un'intervista che Mirabai Devidasi ha colto così qualche tempo fa, dove il nostro ospite dichiara inizialmente la sua così estasi nel prendere questo cibo offerto a Krishna. Poi sento un'altra cosa, una gran pace quando vengo a Villa Vrindavana, veramente una pace sento nell'anima, e mi piace molto la prasada. Si vorrebbe chiederti che se piace il cibo. Maha prasada. Oh, sì. Maha, quello che viene proprio del piatto, sì, di Krishna. Sì, infatti mi hanno dato oggi un po' di Maha prasada. Ho imparato le differenze tra prasada normale. Certo, però è Maha prasada. Una che si intende. Sì, l'ho imparata, la Maha prasada, però... sì, ecco, mi piace, però a casa diventa un problema prepararla. Innanzitutto, sa, la fettina si vede, si sbatte sui ferri, si mangia e via con un po' di insalata. E non si sta lì. Io veramente devo dire la verità che ho qualche riserva sulla carne, non la mangio più volentieri. Una volta proprio giù le fiorentine. Sì. Adesso ho qualche riserva proprio, preferisco mangiare un pezzo di formaggio, un po' di insalata, ecco, magari un po' di riso in bianco, così, sì. Cose che diciamo... non mi pongono dei problemi, non dico ancora proprio morali, però insomma preferirei, diciamo, però ecco il punto invece su cui io devo muovere una piccola riserva è il fumo. Io sono un accanito fumatore di pipa e se non poter fumare la pipa per essere un dramma. Beh, ma sai, il caffè, meglio la pipa, dico vabbè, la carne si può anche, posso anche comprenderlo, ma una buona tazza di caffè, un po' di tabacco, un po' di pipa, ecco, insomma elastici, no? Beh, ma se uno è serio, no? Deve dire che uno non è, cioè il corpo umano non ha bisogno di una pipa, non ha bisogno di caffè, perché nessuno di noi siamo usciti dai grembi di nostra madre con un segreto, certo, una pipa in bocca. Quindi, è vero. Quindi vuol dire che queste sono abitudini acquisite dall'uomo, no? Un tentativo di trovare, non so, un conforto. Io ho notato che persone che fanno pipa, no? Lo fanno più perché c'era tutto un cerimonio di pulirlo, esatto, lo metto dentro, sì, di tenerlo in mano, il caldo, sì, no? Sì. Di, proprio che ti dà compagnia in un certo senso, no? Ma c'è un altro modo di smettere questo, perché non neanche fa bene al corpo, no? Certo, recitare il mantra, Hare Krishna, Hare Krishna. Infatti Krishna, la soluzione è questa. Hare Rama, Hare Hare. Bravissimo. Sì, io guardo durante la giornata, ho osservato una cosa, nei momenti di difficoltà ci sono sempre, magari solo quando devo lavare i piatti, certo, no, veramente li lava lui, però non so, magari mi trovo in un momento, allora dico Hare Krishna, facciamo un atto di devozione, facciamo un lavoro anche può essere scocciante, oppure non so, solo fare, quando c'è nel traffico, proprio in tutta in una situazione molto maya, No, a un certo punto non vanno, non si muovono, vanno piano, fanno... Allora dico, per carità, via, Hare Krishna, Hare Krishna, sì, sì. Ci calmiamo un pochino, magari anche prima di andare da un cliente, dico, questo qui, dico, la pubblicità me la fa Hare Krishna, aiuta. Cioè, lo chiedo per delle cose piccole, umane, sì. Non certo per raggiungere l'assoluto, eccetera, il Bhakti Yogi e varie cose, però perlomeno, insomma, vedo che tutto mi porta bene. Sì. O il fatto che sia una cosa che porti bene, io, questo qui lo porto dire agli ascoltatori, che... Se non diventano dei seguaci, almeno degli amici, dei devoti, perché devoti per me è già un grado molto più elevato, no? Ma almeno degli amici che si avvicinino con un certo animo, come mi sono avvicinato io, un animo benevolo, di collaborazione esterna, come facciamo io e lui. Sì, infatti noi diciamo spesso, scusa, che non è comune deve togliere cose dalla vita, abbandonare ogni cosa, diventare un devoto così, no? Sarebbe bisogno di aggiungere Krishna alla tua vita. Ecco, esatto, questa. Su questo punto io sono d'accordo. Sì, così uno può vivere più coscientemente facendo quello che stai facendo, ma viverlo in modo più cosciente, più completo. Sì, esatto. Questo. Sempre fare attività oneste, pulite, di non ledere nessun interesse degli altri, di non fare delle cose, noi ci siamo messi su questa cosa e basta. Voi... Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Vedete che anche adesso, quando lui si trova in momenti, in situazioni un po' difficili, un po' faticose, lui comincia a cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Marco, se adesso se sei in ascolto, almeno spero di sì, anche tuo fratello, c'è una cosa che vorrei dire, stavo per cercare di spiegare, ma quando ho ascoltato questa intervista adesso ho notato che sono stata deviata un pochino, no? Quando tu stavi parlando della fortuna, del fatto che era molto auspicioso di avvicinare Krishna a Gautama Mantra, anche detto che tu chieda a Krishna per le cose piccole, no? Per le cose umane, come un buon risultato del lavoro, per i soldi, per diciamo, la fortuna. Quando invece, se uno vede bene, no, che Krishna, sì, si può dare questa, una bella casa, una moglie, la macchina, questo tipo di cose, ma effettivamente non è molto, diciamo, elevato, no? Questi desideri non sono desideri molto elevati, perché queste cose sono temporanee. Come Dio te l'ha dato, un giorno queste cose... devi lasciarle su questo pianeta, non puoi portare queste cose con sé. Quindi, invece di chiedere a Dio per le cose temporanee, sarebbe meglio di chiederlo per una felicità che è eterna, una conoscenza che è eterna. Adesso vorrei, per illuminare questo punto un po' meglio, raccontarvi una storia. Questa storia è stata detta a noi nel nostro mese spirituale, Gurudeva. Lui raccontava un fatto che un giorno c'era una vecchia donna indiana che portava sulla testa una grande pesa. Però se voi sapete che spesso gli indiani portano in giro sacchi di legno, altre cose appoggiate sulla testa. Allora, questa donna aveva questo peso, questo fardello sulla testa, e in qualche modo un'altra è caduta per terra. Allora, essendo che lei era da sola su una strada, non c'era nessuno, non c'era la possibilità di avere qualcuno aiutarla di sollevare questo peso per rimetterla sulla testa. Lei cominciò a gridare, aiutare, oddio, oddio, guarda che è successo, questa cosa faccio, oddio, oddio, cominciò a lamentare, piangere, sta piangendo così tanto che Dio ha risposto, ha detto, allora, che cosa vuoi? A lei, con Dio davanti, ha chiesto a lui di aiutarlo, di mettere il peso ancora un'altra volta sulla sua testa. Allora, se uno pensa bene, che stupidaggine, se Dio si pare, se Lui è lì in grado di rispondere alle nostre desideri, alle nostre domande, perché non chiediamo da Lui che cosa è veramente preziosa, che cosa che ci aiuta veramente? Chiederlo per una vita spirituale, una vita eterna, senza sofferenza. Chiedono di portarci con lui a un mondo spirituale dove uno non ha bisogno di una macchina. Chiedono di portarci con lui, per vivere con lui il mondo spirituale, per servirlo con amore e devozione. Chiedono per cose che non finisce, che cose che ci dà la vera felicità. Abbiamo sentito questo aneddoto, questa storia, una storia che effettivamente succede tantissime volte. Infatti la maggior parte delle persone continuano a chiedere a Dio dei benefici che sono veramente irrisori in confronto così al fatto che noi stiamo parlando con Dio, la persona suprema. Quell'essere supremo che è in grado di darci la felicità eterna. Quindi con questo pensiero, questa puntata di Fuori dal Tempo si sta per concludere. Quindi un Hare Krishna grandissimo a tutti quanti. A risentirci nella prossima puntata di Fuori dal Tempo. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Rema nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Con noi è meglio.